E se non sono capace? E se non riesco a cambiare? E se questi dubbi ti suonano familiari? Conosci quel brivido davanti all'ignoto? È la vertigine. Lasciati ispirare da Vertigini, storie avanti. È il nuovo podcast di Roberta Lippi, realizzato da Storie Libere per Verti Assicurazioni. Seguiteci su storielibere.fm e sulle app di ascolto. Niente, oh, qui, raga, dai, prima che inizia sta trasmissione, Marco, ma te sei sicuro che... Perché secondo me, se non c'ho, c'ho sta sensazione strana. Ti sei scordato qualcosa? Io sì, ma io lo so pure che mi sono scordato, cioè che se siamo scordati, però c'è una cosa di... Peppone, pizzi, Peppone, se siamo scordati. Porca puttana, ma dove sta? Dentro, lì dentro? Lì. Dove tu? Io ho detto, teniamolo qui, pure se tira un po' di merda, cioè abbiamo l'impermeabile fucsia, tu niente, no, chiudiamolo dentro lo stanzino. Quindi poi siamo dimenticati, se aveva vinto, se aveva perso. Noi abbiamo fatto tutto quanto la cosa, cioè, perché vabbè, poi... apri, va Marco, dai. Apro. Ma rieccolo, ammazzivo, ammazza e puzza, raga. Ma che è sta puzza? È perché, raga, è stata una settimana lì a cagarsi addosso. No, dai, ammazziamolo, dai, ammazziamolo. No, dai, è tanto tranquillo. Ma infatti, se la mette per quella, poi no, la bestiola. Ammazzalo, te prego. Va tutto bene, va tranquillo. Attento, Marco, attento. Che schifo, ecco, ma no, vaffanculo. Pezzo di me. Te sfondo. Pia questo. Tacci tua. Ma culo. Cipolle merda. Marco, anche basta. Che cazzo. Vieni pure tu. Vieni, spara, vieni pure tu. Dai, Michele, ducarci. Dai, educarci. No, non posso. Mi dispiace. La merda addosso. Dai, educarci. Dai, non posso, tu. Non posso. Non ce la faccio. Aizza il cane. Dai, dai, botte, via, dai, via. Sta manganellata, sta scimmia del cazzo. Mamma mia, che puzza. Questa puzzava da morta, vivo, puzzata da morta. Dai, vabbè. Sentite, sai, ve dico, perché qui secondo me ci stanno aspettando. A un certo. Ma che schifo, guarda. Il pallone rotondo. Io corro dietro al pallone per quasi un milione o forse di più. Io sogno sempre il gol, però faccio il portiere. Carissimi amici ascoltatori di Runtime Radio, il calcio torna a casa per questa finale di Euro 2020. Benvenuti all'ultima puntata di Eurocalcio 2021. In questa grande occasione dove appunto il calcio torna a casa, ce l'hanno ricordato per 125 anni questa cosa, che il calcio tornava a casa, quando poi alla fine, insomma, ci siamo sempre detti, ma a casa dove? E invece si è sbagliati, è football is coming in Rome. Esatto, potrebbe anche essere. Va bene, bene. Michela De Paola. Yeah, salve a tutti, salve a todos. Dopo Come? Il miracolo sono ancora qua. Come stai? Leviamo questa cosa. Brava. Sono vaccinata, sono totally vaccinata. Poi dopo questo lo dice lei. Ce la racconti. Marco Gualdi. Bravo. Vi saluto, grazie. Volevo solo leggere, dare una rassicurazione da Antonio da Padova. Sì. Che ci ha appunto chiesto notizie di Peppone il Gibbone, perché pare che l'altra volta ce lo siamo scordati, ma no, lo abbiamo liberato. Adesso sta in un posto migliore. Intanto vi vorrei insegnare agli angeli, vi vorrei soltanto dare un'anticipazione, perché tra il pubblico, vabbè, Sky ci fa vedere molte più cose di quelle della Rai. Io ho Sky, per fortuna, per una causa fortuito. Vabbè, io devo finire di presentare Tom Cruise e David Beckham stavano chiacchierando allegramente mentre si stavano facendo l'iscrizione a Dianetics. Esatto. Giustamente. Sì. Stavano toccandosi e pomiciando. Il cane! Il cane! Bravo, bravo. Che ricordiamo è la, diciamo, la figura più intelligente. È quello che adesso mangerà i resti di Pippone. No, no, sarà il posto migliore. Walter Sbano. Allora io vorrei capire una cosa, Pizzi. Buonasera, perché devi fare così? Cioè, perché l'ultima partita? Metti che vinciamo, andiamo avanti. Football, it's coming home. Giusto? Ragazzi, Siamo arrivati. Stupide creature. Ciao amici, ciao. E Francesco, lobby frontali di muro. Proprio quasi al completo in questa serata di chiusura di Euro 2021, dove insomma riusciremo a vedere momenti belli, insomma, del calcio mondiale, sperando insomma che succeda qualcosa che ci arrida. Noi siamo sportivi, ci arrida. Noi non interessa. Hello? Siamo sportivi, non interessa. Hello? Che vinca. Pronto? Ci sentite? Anche un altro. Pronto? Okay. Hello? Hello? Hello? Che? Okay. Hey? Hey? I'm from the Wembley Stadium. Yes. Arena. Yes. Yeah, your English is very important. It's awesome. It's awesome. Yes. Everybody know. Yes, I am English. Yeah. Yes, okay. Your accent is poor British accent, quindi non ho problem. Quindi abbiamo anche Carl Sant'Agostain. Charles Sant'Agostain. Bravo. Però ragazzi, io prima di tutto, tanto Michele che ci andrà in giro, ma noi dicevamo, stavo dicendo che noi siamo sportivi, a noi non interessa che vinca l'Italia, l'importante è che perda l'Inghilterra. Sì, ma se tu parli mentre che vai in giro non ti sente nessuno, no, è difficile. Non lo sedare. Vabbè, andiamo bene. Se poi guarda, c'è un metodo che abbiamo usato con a me certe volte sembra di combattere un po' con la gente, tipo con la menopausa, parlava in giro da sola, parla. Vabbè, comunque, volevo dirvi: questa è una battuta sessista. Volevo dirvi, ragazzi, che questa sera c'è questa apprensione per la finale, ma io ho una precognizione. Io so come finirà la partita, quindi Puoi saperla, perché poi se sbagli, infatti verrai animale. Ucciso alla fine della partita. Quindi è meglio non insomma. No, io so come finisce la partita. Ferma Scirea. Pergomi. Gentile, è finito. Campioni, abbiamo vinto. Dai. Del mondo. Che è successo? Del mondo. Battendo la Germania per dove ho messo la tromba? Davanti a te. Ah, c'ho la luce davanti. Campione del mondo, però sì, mi sa che c'è qualcosa che non... Sei sicuro? C'è qualcosa che non va. Ah, ma lo sai che cos'è? Che oggi è l'11 luglio. Già. Quindi l'11 luglio del 1982, io avevo 10 anni, 11 anni, adesso non ricordo. E l'Italia ha vinto il suo terzo titolo mondiale. Già. Quindi vedi, c'è una commemorazione. Sono belle cose, sono bei momenti. Tu te lo ricordi, Marco Gualdi, questo momento? Certo, io ero a passo scuro. Ma eri mi ricorda un po' come Olivia, che salutiamo, Girasole, che lei è andata in vacanza. Dov'era? A Giannutri. Ma la cosa bella di quell'11 luglio 1982 era il nostro carissimo nonno Sandro, il presidente che abbiamo amato tutti. Presidente, quale sensazione per la televisione? È una delle mie gioie più grandi da quando sono presidente della Repubblica. Fantastico. Un presidente che non si impalla. E poi presidente. Stava per impallare, insomma. Va bene ragazzi, inizia quindi questa finale della quale io non vedrò assolutamente niente. Allora, la cerimonia è molto bella. Bella la cerimonia. Descrivici Michela, bandiere, cioè, tantissime persone. Bandiere cecoslovacche che sventolano al passaggio dell'Armata Rossa. La bandiera bianca dell'UEFA e fuochi d'artificio, però adesso vedo Gullit che alza una coppa, quindi mi dispiace ma non vedo più la cerimonia. Gullit è arrivato in città? Baresi è di nuovo papà. No, vabbè, l'abbiamo ormai è una consuetudine. Va bene. E campioni d'Europa, tutti i campioni d'Europa che del passato. Quanti sono i campioni d'Europa del passato, Michele? Io vorrei solo dire una cosa. Dipende da quando sono partiti i campionati. Ma non vedo inglesi in questa carrellata, com'è? C'è Ronaldo. Forse perché non è che Ronaldo non è inglese. No, è Portogallo. Portogallo è l'ultimo Ronaldo che ha vinto. È portoghese. C'è un signore, un bel ragazzo che sta portando la coppa. Su la coca. La coppa in mezzo allo stadio. Il Moro Bono, diceva qualcuno. C'è un bel ragazzo di colore. Devo rispondere. Un bel modello, sicuramente è un bel uomo, non so chi è. Sarà un attore? Sarà un personaggio famoso? Va bene. Non so. Entriamo però nel vivo. Introducono della... la coppa. Introducono la coppa e ve la fanno vedere. Lo stadio è pieno, regà. A me mette paura sta cosa. Possiamo introdurre. Tutti inglesi moriranno. La partita? Mentre il cane continua a fare. Vabbè, lo farà tutta la partita. Non c'è problema. Allora, inno della nazionale italiana. Bene, sempre un bellissimo momento. La formazione dell'Italia. Chi la dice la formazione dell'Italia? Chi ce l'ha pronta? Francesco. Di solito sei tu, Francesco. Certo. Prego, prego. Certo. Attimo. Con calma, qui si soffia. Proprio la radio. Sì, chi è che si è soffiato? No, lascia bene. Non mi soffiate sta roba. Io sto cercando di riempire il vuoto con quello che posso. Sì. Francesco, ce l'hai? Non ce l'hai. Sennò, no, non ce l'ho. Non ce l'ha. Andate con quello inglese. Quello inglese, vai. E andiamo con la formazione inglese, classico 4-4-2 con Benjamin Price in porta, difesa a 4 con Charlie Caster, Jill Taylor, Bruce Harper e Jack Morris. Centrocampo ancora a 4 con Bob Denver, Ted Carter, Paul Diamond e Johnny Mason, coppia d'attacco dai mille gol e prolificità, Oliver Hutton e Tom Baker. È bello l'allenatore. Sto cazzo! Sto cazzo. Allora, a questo punto... Ce l'ho quello dell'Italia. Vai, anche sull'inno inglese. Era Mattarella che applaudiva comunque. Vado? Allora, Di Maio, Lamorgese, Cartabia, Guerini, Franco, Giorgetti, Patuanelli, Cingolani, Giovannini, Orlando, Bianchi, Messa, Franceschini, Speranza, Caravaglia, Dinca, Brunetta, Gelmini, Carpagna, Datone, Bonetti, Colao, Stefani e il CT è Draghi. Grazie. Adesso tifo Inghilterra, grazie. Grande, veramente bei momenti. Ma Di Maio è lo stesso di cui l'ISIS ha minacciato la morte? No, si è minacciato da solo, secondo me. Sì, l'unica. Non l'unica era l'ISIS, era la Falange di Acerra, la ISIS. Va bene. Andiamo un attimo alle stupide creature. Fino adesso sono stati in silenzio, insomma, e stanno sorbendo tutta questa atmosfera elettrizzante di una finale di un campionato così importante. Ragazzi, cane, buono cane. La tensione sale. Il topico. E soprattutto noi tifiamo per la Scozia, il cane di Michele. Anche noi! Che soprattutto è risaputo che la Scozia non dice proprio bene gli inglesi e questa sera mi sa che ti farà impazzire questo cane. Molto bene. L'inno è quasi finito? Sarà finito? Non lo so, noi siamo in ritardo di circa 20 secondi. Beh, a di voi. Infatti, cioè, noi abbiamo un ritardo mostruoso. Ci sono dei bordelli assurdi fuori dallo stadio. Ci sono dei bordelli fuori dallo stadio. I tifosi inglesi hanno spaccato tutto. Qualcuno è entrato dentro senza biglietto. Meno male che gli hooligan avevano in qualche modo debellati. Bene, sono sempre bellissime cose. Insomma, che alla fine in qualche maniera ci rendono orgogliosi, no? Orgoglioni del fatto, insomma, che la UEFA ha voluto proprio a tutti i costi che tutto questo fosse finisse in un'ecatombe di Covid, peraltro, perché 30.000 casi al giorno questi riempiono uno stadio. Vabbè. Bene, Michela, tra l'altro tu hai un po' seguito questi europei, insomma, si dice che l'Inghilterra sia un po' favorita. Secondo te da che cosa questo pulpito, insomma, da queste perché affermazioni? Perché sono vandali, quindi se non gli danno la partita... Ah, c'hanno paura che spaccano tutto. Ho capito. È tutto là il problema. Ho capito. E... basta dire, a un certo punto, questa a metà del primo tempo... Questa è l'illazione. Io c'ho un'idea, basta, in casa si va, a un certo punto, si fa scendere in campo uno dalla tribuna, che a metà primo tempo dice che è morto un ragazzino. No, no, no. Oddio, no, dai. No, è una citazione, Pizzi. Sì, però sì. È una citazione. Ah, vero, hai, ragione, hai ragione. Attenzione. Hai ragione. Un famoso derby Roma-Lazio, Lazio-Roma. Sì. Non morto ragazzino. Morto ragazzino, che poi non è mai morto quel ragazzino. No, assolutamente. No, no. Grazie al cielo. Grazie al cielo. Muoiono in coltivazione. Una bomba, c'è la bomba, c'è la bomba. C'è la bomba. E queste sono le illazioni. Invece le affermazioni, quali sono le tue affermazioni? Anche sulla bomba sul ragazzino? No, su questa cosa che dicono che l'Inghilterra, sai, insomma. Allora, il fatto che si giochi in Inghilterra, che si giochi a Wembley. Vabbè, da qualche parte si deve giocare. Che si giochi, insomma, in mezzo a 50 milioni di tifosi inglesi, questo non è che significa che la squadra è favorita. Secondo me non è assolutamente così, insomma. Cioè, infatti. Un principio di equilibrio che è stato mantenuto fino alla fine, credo, così a naso. Bene, comunque io faccio presente che la finale giocata dalla squadra che ospita la partita non porta mai bene statisticamente. Beh, è vero parzialmente, però comunque dai, vediamo un attimo com'è qui la questione. Invece volevo andare subito ai Creature, perché sapevo che loro, insomma, nel grandissimo repertorio musicale che loro hanno, considerando il fatto che un giorno hanno provato una profonda invidia per quella famosa canzone di Claudio Baglioni, Viva Viva Qualcuno l'Inghilterra. Qualcuno dice che è partita musica a caso. Dove? In che senso? Su Runtime Radio. Su Runtime Radio è partita la musica a caso. Non c'è nessuna con musica a caso su Runtime Radio. Marco Bianchi ce lo dice. Tutto funzionante. Marco, dove sei? Ce lo sta dicendo in chat. Io adesso faccio un rapido controllo. Un secondo. Sì, sì, sì. Ora c'è lo spot di Leo adesso. La live. Non sta livando, è brutta. Queste sono brutte cose, Pizzi. Io qua vedo live sistemate. Di live io vedo Deluto Fuen Viernes bloccata, 13. Questo qua, ok. Riproviamo, ci riconnettiamo. Siamo connessi, ok, ci risiamo. Comunque, okay. Dicevamo che le stupide creature, un po' invidiose, no, della canzone di Claudio Baglioni, Viva l'Inghilterra, no? Anche se secondo me quando è stata scritta quella canzone loro non erano neanche nati, però a posteriori, insomma, hanno provato invidia e ne hanno fatta una simile. No, non siete online. Vabbè, io vedo che siamo online. Siamo online. Refresciate. Provate a refresciare. Oh, ragazzi, state tranquilli. Voi. Andiamo avanti con la trasmissione. Se no, stiamo qui 20 minuti. Controllo io, mentre che voi continuate a fare la trasmissione. Vabbè, noi diciamo che quello che te dicono loro. Refresciate, ragazzi. Refresciate. Sempre quello lì. Comunque, sono pronti a partire i nostri giocatori, però dicevamo appunto della versione. Ecco, della versione delle stupide creature di Viva l'Inghilterra. Che appunto, insomma, giustamente. Non so. Viva l'Inghilterra si intitolava. Sì, scusami. Sì, la canzone si chiama Viva l'Inghilterra. Mai sentita, però la so benissimo. È questa qua. Noi facevamo questa versione molto particolare di ispirazione cecoslovacca. L'Inghilterra, bellissima terra, dove anche i romani sono arrivati con il loro impero, ma gli inglesi barbari non ce l'hanno fatta evolversi, non hanno importato il bidet, chilometri di moquette dentro le toilette, bathroom everywhere, no bidet. Insegnamenti intimi, pulizie di orifizi che alla lunga danno giovamenti, specialmente se corri dietro una palla per 90 minuti. Praticamente abbiamo già vinto, perché loro avranno bruciori nelle zone intime. E avranno peli incarniti e pelle irritata, e perciò perderanno. Ci ha preso il primo gol? Siamo già sotto un gol. Eccolo! Subito! e guardiamo queste azioni così maestose di questo sport, così in ritardo nella nostra TV, che non sappiamo cosa andrà a succedere. Ed è gol, ma era scontato perché nei primi secondi di minuto non subentrano queste irritazioni alle parti intermedie. Beh, diciamo che bravi intanto, bravi. Bravi, bravi. Diciamo che il problema era che non essendo collegati, praticamente noi non abbiamo apportato praticamente non la nostra. Bene. Adesso invece ci siamo. Okay. Non sappiamo perché si era impallato il software di streaming, ma insomma, in realtà queste ultime due puntate, questi piccoli problemi ci sono stati, mi dispiace. Il software si era impallato perché è una trasmissione che parla di calcio, esatto, e di palle, quindi non potrebbe che impallarsi. Se era il tiro con l'arco si sarebbe infrecciato, invece no, si è impallato. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Bene. Michela partecipa alla... Certo. Ed è gol. Però anche un bel gol da parte degli inglesi, quindi... Degli inglesi, quindi... Allora, perché poi tra l'altro, giusto Michele, come è stato questo gol? Raccontacelo. È stato che sono andati là e gli hanno portato dentro la porta, in pratica. Gli hanno portato dentro. Donnarumma è uscito. D'altronde si chiama porta. E ok, portare. Ma quindi questa è una finale. Chi vince tra le due squadre? Che cosa vince? Cioè che cosa ottiene? La Coppa. E l'ho poi? Vista la coppa, l'ha portata il Gullit, il bellissimo ragazzo, che non sai chi era, però no, vince la coppa e vince l'armistizio, e quindi l'armistizio contro contro chi gioca l'armistizio? Contro la Russia. Armistizio Russia, quindi. Armistizio Russia. Infatti la Russia non ha giocato l'Europeo. Va bene, ragazzi. Allora, per darci un po' il tempo di organizzarci per bene, adesso noi ci ascoltiamo un brano importante. Un brano, tra l'altro, in inglese. Cioè, in inglese. Sa Marco magari di spiegarcelo questo brano. Sì, è un brano che finalmente abbiamo scritto nella nostra lingua zia, che è l'inglese, una lingua importante, seppur espressa in termini macaronici, ha dato grandi soddisfazioni alla band, anche perché è l'unico brano al mondo senza ritornello, senza strofa, senza trio finale e senza introduzione, però è in inglese, quindi è il nostro brano più sofferto e anche più, diciamo, possiamo dire anche interpretato, e ha un titolo inequivocabile, è Cats in Kulau. Sì, è inequivocabile talmente tanto che non sappiamo perché, ma non si sente, insomma. È un brano inesistente. Niente, ragazzi, questa sera, come abbiamo detto, dato che si era impallato, vabbè, allora facciamo una cosa, Michela. Sì. Posso cantare io? Se No. Come no? Adesso non esageriamo. Facciamo una cosa, Michela. Guarda, tu sai che questa notte, sì, intorno alle 2:30, 3 orario italiano, si è giocata la finale. Perché qui non è, cioè, giustamente a un certo punto dicevo, lo fanno gli europei, fammolo pure noi che siamo americani, mica siamo da meno, no? Si è giocata la finale di Coppa America tra Brasile e Argentina e ha vinto l'Argentina con un gol di... Che poi veramente c'è, cioè, una sfida al cardiopalma. Palma, cioè, io, palma. Io non l'ho vista, però ho pensato tantissimo. Però mentre dormivi grandissimo... c'è il cardiopalma. No, voglio essere seria. Onesta, per onesta un momento. Anche. No, seria per un momento. Grandissimo omaggio a una persona che sicuramente avrebbe festeggiato fino a facce morì dalle risate. I festeggiamenti ci avrebbero ucciso dalle risate. Che è il nostro grandissimo amico Sergio, che se n'è andato l'anno scorso. E lui era argentino. È argentino. E quindi ha portato tanta argentinità nella, diciamo così, nel suo modo di fare, e però si sa che i brasiliani e gli argentini sono rivali da sempre, e tant'è che abbiamo un'amica brasiliana che ci dice sempre che anche lei ci ha lasciato un anno fa. Ma come contro l'onda mentana proprio? Esatto, cosa, bravo. Forse bravo. Anche peggio. Bravo. Anche peggio, sì, sì, sì, perché sì, loro gli hanno rubato il catena ciao. Okay. E invece i brasiliani gli hanno rubato l'osu. Quindi l'osu. Grande, grande, grande partita. Bravi, veramente bravi. E niente. Niente? posso continuare a parlare? Non avremo quindi, più possibilità di ascoltare i di ascoltare niente. Niente? Quindi, non so perché. Niente, canteranno tutto il tempo. Infatti, ragazzi. So okay. Fatela live. Concerto delle stupide creature. Fatecelo addirittura in bootleg. Allora, se volete, visto che per il brano in scusate, sto guardando la punizione. Il brano in oggetto è orchestrato in maniera terribilmente difficile, quindi proprio per una ragione di quantità di musicisti presenti al momento è impossibile replicare. C'è un brano che molti di voi avranno già sentito, che è dedicato al portiere della nazionale, che si intitola Donna Rumba. Ok, bella, vai. È la mia passione, il pallone è la mia passione. Io non sono una donna, ma sono un omon. Un omon che sta in porta a parare il pallone. Il pallone è la mia passione. Donnarumma è il mio nome e io paro il pallone. Donnarumma è il mio nome e sono un omon. Mi tuffo a destra, mi tuffo a sinistra, mi tuffo in centro, prendo il pallone. Prendo il pallone, prendo il pallone, ma non il primo gol che ci han fatto. Ero in porta, ma ho avuto una defaillance. Capita una defiance, speri anche non sia stasera, speri anche non sia mai, ma le volte può capitare anche se sei un omon, anche se sei un omon che para il pallone. Bellissima, ragazzi, io a volte mi emoziono da solo. Profetica, Mauro, profetica. Bravo, bravo, profetica in quanto? In quanto sintomo di profezia. Bravo. Bravo, veramente io non Simone bailati, Simone bailati, bailati, bailati, Simone bailati, Simone bailati, Simone bailati, bailati, bailati, Simone bailati, Simone bailati, Simone bailati, bailati, bailati. Che è sempre la storia quella là di Simone, vai ai lati. Però scusate, posso essere pignolo? Simone vai sulla fascia. D'altra parte la diretta di una partita non è Simone, quello, vai ai lati, vai ai lati, la fascia è quella, insomma. Io rispondo solo Simone vai ai lati, perché me la diranno dalla quando facevo l'elementare. Invece Simone vai sulla fascia non sono ancora abituato. Cioè, tu mi stai dicendo che praticamente quando l'ho detto io la prima volta non sono stato originale, questo è assolutamente sì, però mi hai ricordato una cosa di quando ero bambino e questo mi ha fatto molto ti ha fatto piangere molto bene. Sì, esattamente, sto piangendo dentro. Dentro, sto piangendo dentro. Dentro. Infatti, guarda, ha tutta la maglietta. Attenzione, bagnata. Ci riproviamo, Ma niente. Non so cosa sia. Ormai lo sketch della puntata sarà. Adesso ci riproviamo. Sì, esatto. Niente. Esatto. Bello spegni quando accendi, spegni e accendi. Non posso se spengo. Se spengo potrebbero esserci dei risultati, non lo so, tipo come se fossero spariti i file, praticamente, una cosa un po' così, insomma. Allora a questo punto io provo a fare una cosa più artigianale, come la vedete? Simone, l'importante, anche se non funziona con il congiuntivo, è che non fai l'apposta. E niente, vabbè, ve volevo far sentire la canzone perché era molto carina, ma veramente non capisco che cosa sia successo, insomma. Cioè, in realtà da nessuna fonte e quella è la cosa bella, da nessuna fonte arriva, quindi è bello. Abbiamo solo live questa sera. Niente, facciamo noi, ragazzi. Sti cazzi, sostituiremo ciò che non possiamo con scuregge rutte. Ma quindi anche gli effetti sonori e tutto saltato. Tutto, non c'è niente. No, c'è solo questi qua del mixer, ma la roba che mi ero caricato su Radio DJ, insomma, non funziona più. Però è anche un po' triste sta parola di questa cosa. Andiamo avanti, insomma, cerchiamo di maledetta tecnologia che quando servi te ne vai via. Maledetta tecnologia che anche oggi agli europei di atletica hai lasciato gli atleti senza tecnologia, tutti fermi. Non c'erano più le pistole per lo starter, non c'erano più i cronometri manuali. Non c'era più il metro per misurare il salto in lungo. Dobbiamo uscire da questo mondo skynettiano. Dobbiamo tornare alle origini e abbandonare questa tecnologia per tornare insieme a fare le cose insieme come si faceva insieme una volta. Comunque, penso che questa tecnologia così canaglia più o meno verso metà diretta tornerà e potremo ascoltare insieme questo cazzo in culo, questo pezzo anglo-italiano realizzato da noi tempo fa. Sono veramente molto molto fiducioso, anche se personalmente non amo la tecnologia. Secondo me è stato un sabotaggio da parte degli inglesi in quanto intimoriti dalla nostra canzone. Sono d'accordo. Esatto. C'è sempre la possibilità di lanciare un nuovo pezzo che in seguito a quello che sta succedendo stasera potrebbe essere intitolato Pets Are Cool. Intanto Donnarumma ha fatto una parata che... Tutto sommato questa ormai battuta mi è anche piaciuta, tutto sommato. Ma molto ci è piaciuta. Mentre che voi parlate, io sto cercando di improntare un collegamento importante, ragazzi, veramente importante. Forse probabilmente il più importante collegamento di tutta quanta la nostra storia di Runtime Radio e non solo, insomma, perché vedo che qui le cose non partono e niente, insomma, quindi niente, vado, provo, attenzione, sto facendo un collegamento veramente, se funziona. Diciamo, come possiamo definirlo questo collegamento? Prestigioso ed anche di altissimo livello, di altissimo spessore, istituzionale, ecco, un collegamento istituzionale che è anche correlato un po' a quello che potrebbe essere questa nostra puntata, insomma, questa partita che stiamo vedendo, anche se purtroppo non sta avvertendo al nostro favore. Mi fanno segno dalla regia, insomma, che stanno provando a contattare, insomma, probabilmente non direttamente la persona in sé, ma magari, che ne so, tutto l'entourage, e poi magari gli passeranno il telefono, ma vedo che questo telefono non solo non glielo passano, ma non gli squilla neanche, insomma, quindi niente, vabbè, questa sera è... Intanto Donnarumma vale tutti i soldi che si è rubato il mio. Attenzione, siamo collegati? No, non siamo collegati, vabbè, niente, non so, vabbè. Volevo dire che Donnarumma vale tutti i soldi che ha rubato al Milan fino da... Meno male che d'ora in poi li ruba i francesi. Dall'età della maturità non mai avuta fino adesso, insomma. E veramente ha fatto un paio di parate incredibili. Ma in realtà lui ha preso un gol nel momento peggiore. In realtà lui non è che ha mai rubato i soldi, cioè lui guadagnava, solo che gli hanno dato proposto di guadagnare di più. I procuratori. Vabbè, comunque fatto sta che, insomma, non è stato di grande esempio quando non si è presentato all'esame di maturità, quindi insomma immaturo. Ma questa non la sapevo, sì. Cioè lui doveva fare solo l'esame di maturità, sì, è una storia. E comunque c'aveva anche un contratto, e cioè il contratto col Milan prevedeva che lui comunque si diplomasse. Sì. Vabbè, ad ogni modo piove in Inghilterra, piove che Dio la manda, regina ladra, ma proprio piove. Vabbè, sento qualcosa. Sì, pronto? No, aspettate che sto provando a far vincere un cavolo verza, vediamo se ci riusciamo a questo punto, dato che sempre che non scatti segreterie con i numeri telefonici, insomma, questo è sempre un po' il rischio. Ci stiamo provando, ragazzi, perché questo secondo me sta vedendo il telefono e squilla, non riconosce il numero e dice: io non risponderò ai soliti molestatori di persone che... Sono i venditori di corrente elettrica. Questo cavolo verso non lo vuole proprio nessuno, non piace. Non piace. Ma anche perché dopo un mese è forse un po' marcito. No, ma noi ce l'abbiamo nuovi. Un po' marcincus. Ce l'abbiamo sempre comprati a decine nuovi, esatto. Sì. Niente collegamento con col cavolo verso, quindi... Ma l'animale, che animale... Oh. Ah, è vero. Here in the middle. But Webley. Yeah. Wimbledon. Wimbledon. This is Michela speaking. I'm waiting for Berrettini. Yes. Berrettini. Vogliamo sapere. Berrettini. Come è andata a finire? È finita soprattutto sta partita. I am here waiting for the match Berrettini. No, mi sa che il match c'è già stato. There is nobody, nobody here. No, it's raining, yeah. I'm alone. No, è nobody perché il match c'è già stato. Capisci? Excuse me. The match is over. The match is over. And the stadium is closed. 9 p.m. Italy versus Wembley Arena, no. No. Wembley o Wimbledon? Wimbledon. Wimbledon. Berrettini, Wembley, Berrettini Wimbledon at 3 p.m. Wimbledon and Wembley and Berrettini, but there is nobody, so I go sleep now. Okay? Meglio che vai a dormire. Sì. Si mette le mutande adesso. Esatto, sì. esatto. Forse anche per questo. Anche io avevo capito tipo la stessa cosa, però vabbè, no, facciamo finta insomma di niente. Insomma, ma comunque, dato che la tecnologia non ci assiste, proprio. Prego, prego. Sleeping, mutandare. Okay. Vai a smutandare. Mi sembrava una notizia interessante. Sempre bello. C'era un personaggio super mutanda che insomma conoscevamo noi. C'era anche il mutandario. Il mutandario è mio figlio quando era ragazzino. Super mutanda, sì, andava in giro in mutanda. Il super potere del mutanda. Tutto il tempo, se invece Superman si levava la giacca e sotto c'aveva il vestito Superman e lui c'aveva la mutanda. Solo, Comunque possiamo dedicarci anche una canzone al mutanda, volendo. È il mutanda. Era Wimbledon. A guardare il match di tennis fra Djokovic e Berrettino. Hanno giocato un grande match, Berrettino l'ha preso in saccoccia, Djokovic ha vinto il sesto titolo, quarto consecutivo se non mi sbaglio, ma Berrettino crescerà e diventerà una berretta che berrà una birretta per festeggiare il suo secondo posto, che tutto sommato non è neanche male, perché avrebbe potuto prenderlo in saccoccia, prenderlo in saccoccia, prenderlo in saccoccia. E per fortuna che lì la tecnologia funzionava, altrimenti non si sarebbero potuto visualizzare determinati colpi lungolinea. E alla fine Berrettino ha perso. Djokovic ha vinto. Se no prendi freddo sul coppino. Berrettino, sei un bello omettino. Sei quasi 2 metri per 100 kg. Tiri molto forte, Berrettino. Bene, allora. Tanto ci abbiamo un giocatore a terra. A terra, chi è? Bello che ve lo chiedete all'unisono, reciprocamente. Io non sto cercando di risolvere i problemi. A terra. Ragazzi, io intanto volevo mandare un messaggio alla redazione. So che forse in diretta non bisognerebbe fare questi cazziatoni, però alle volte è giusto. E perché il nostro Shuren ci fa sapere che non ha ancora ricevuto il suo cavolo Verza, ormai vinto giorni e giorni fa. Questa cosa è veramente inqualificabile. In effetti, lui ci ha mandato l'indirizzo corretto, però lui non avrebbe dovuto. No, ce l'ha mandato per chat. Non avrebbe esatto. E allora, sai, potremmo via rettale, insomma. No. Ok. Forse quello deve andare via rettale. Quindi Shuren, il problema è tecnico, purtroppo è burocrazia, però va rispettata. Ci devi mandare Tom Cruise e David Beckham che hanno esultato durante il primo inglese. Poi, no Tom veramente Tom Cruise no, è americano. Cioè, ma perché cazzo che ne frega da americani del pallone? Americani. Beh, Beckham ci sta, insomma, d'altronde. Ex calciatore, insomma. Io però voglio dire, secondo me il gol. Allora, comunque parlando di Berrettini ancora, allora menzione d'onore che ha perso. Menzione d'onore alla mamma dei Berrettini, che è la madre di tutti noi, che si è presa il calmante e gli ha dato pure al fratello dei Berrettini. Giusto, Michele? Perché, la madre dei Berrettini è Coppoletta? No, la signora Coppoletta? No. No, saprei. Comunque, scusate, intanto Giorginio è stato accompagnato fuori dal campo dal personale medico, quindi insomma stanno cercando di farlo recuperare, ma insomma zoppichettava, ecco. Non ce la faceva neanche al sasso, in realtà. E soprattutto si è presentato in giornata, prima del match si è presentato con la maglietta di Black Lives Matter, quindi italiani, giocatori di calcio, insomma. Però non si è inginocchiato. Prendete esempio, eh? Però non si è inginocchiato per rispetto all'altro avversario, rispetto alla maglietta anche. No. Non so se magari non era stato richiesto questo, però nel frattempo dai. Questa è la sera delle bestemmie, perché è saltato di nuovo la diretta su è saltata di nuovo la diretta, caduti di nuovo. Mi sa che si recupera, quindi dovrebbe arrivare il secondo gol della Gran Bretagna. Potrebbe arrivare, sì, esatto. Quindi io sto qua che aspetto il secondo gol. Vabbè, ok. Che faccio? Provo a fare quel collegamento istituzionale? Ci riprovo? Che dite? Riproviamoci, intanto. Non lo so, se l'animale così. No, l'animale. Cosa può andare male del resto? Ah, l'animale, hai ragione. Francesco, mo poi capirai, stiamo pure avanti, cioè nel senso. Francesco, l'animale. Presentaci l'animale di questa serata. Sono fiero di presentarvi, però ci siamo dovuti attrezzare adeguatamente, visto le dimensioni piuttosto contenute dell'essere vivente in questione, che però ha il potere della preveggenza, anche lui si spera meglio degli altri, sicuramente ha meglio altre cose, però andiamo a scoprire. Abbiamo Rodrigo do il Tardigrado. Beh, che bel nome. È un nome esotico, esotico. Sì, sì, essendo Rodrigado il tardigrado. Essendo circa misura circa 0,3 mm, quindi ci siamo dovuti attrezzare anche con dei microfoni in modo che possano sì, molto soprattutto anche col microscopio. Sì, molto direzionale, molto. No, è un microscopio, bene male, 0,3 mm. Abbiamo il sottofondo, credo proprio il tardigrado. Si sente a malapena, giustamente, perché ci vuole un microfono veramente. Micro? Sì, esatto, un microfono, capito? Quindi non so se l'avete capito. D'altronde penso che i rumori. Comunque, Giorginio era entrato in campo, vi volevo rassicurare. Ah, ok. Ma siamo tornati in diretta? Stiamo perdendo in 11, non in 10. Ma io non ho mai. Cioè, per me non siamo non in diretta. Cioè, però non so quello. Beh, secondo quello che dicono sia in chat, ma adesso controlliamo. Sto controllando, niente. Non va. Sento. Vabbè, allora non so. C'è un metallone forte. No, sarà un problema da radio. C'è del server qualcosa che salta. Non è colpa tua, Simone. Beh, colpa mia non può essere davvero. Io più che di spingere dei pulsanti. No. Siamo anche su Spreaker. E li spingi male. Non posso fare. Insomma. Se vede, la gente si ascolterà questa bellissima finale in podcast. Speriamo che ne abbia voglia. Esatto. Adesso siamo nuovamente online, ragazzi. Se qualcuno gli va di dire agli altri che insomma, però è vero, non eravamo online, perché anche se questo mi contava ancora i minuti, in realtà poi il programma era bloccato. Io non so. Ci abbiamo gli asset, magari sono tornati pure quelli col cazzo. No, quelli non, ma quelli poi siete di nuovo online. Non si capisce di nuovo online. Ma questo tardigrado. Bene, comunque tornando al tardigrado, esatto, insomma. Eccolo, bravo Tardigrado. Bravo Rodrigo. Rodrigo oggi ci dirà la partita di questa ambita finale. Anche se parte avvantaggiato, perché già c'è stato un parte del risultato, insomma. Vabbè, ma lui in realtà già l'ha previsto, quindi. Ah, ve l'aveva già previsto. Già l'ha previsto. Sì, sì, e già come si fa il tardigrado a prevedere il risultato? Niente, glielo si chiede. Rodrigado. Rodrigado. Sì, si sta rispondendo. Tu non lo senti bene, ma ti sta rispondendo. Rodrigado, come finisce? Come finisce la partita? Forse dobbiamo alzare un pochino. Più di così non possiamo. Quindi che ha detto? Marco, diccelo tu che lo senti meglio. Come finisce? Dice 3-0. 3-0. Cioè, per chi? Per Italia, ma no, non è possibile. No, allora già è morto così. Parte male. Sei stupido. Vediamo se gli confermi. Guarda, ti do un aiutino. L'Italia sta perdendo 1-0. Esatto. Conferma? Sì, conferma. Conferma 3-0. Senti, Francesco, questo tocca eliminarlo subito. Subito. A questo punto. Sta una delusione, però, Rodrigado. Allora, cosa utilizziamo? Ciao, Rodrigado. Ciao. No. È un po' un cazzo. Aspetta, ha arrestato? Sì, l'ho acciaccato col culo della bottiglia, ma non so se è servito. Niente, perché non lo vedo. Sta ancora là. E non lo so, provate a bruciarlo. Chi c'è un accendino? Qua siamo tutti non fumatori. Però c'è il cane, se lo può mangiare il cane. Sì. No, non funziona. Cane, avete qualche radiazione ionizzante a disposizione? Ce l'avete? No. Mazza, ho lasciato il cannone a raggi gamma in macchina, vedi, a saperlo. Vabbè, resiste pure a quello, mi sa. Calore, bollitolo in qualche modo, però devi raggiungere più di 150 gradi. Come si fa a bollire a 150 gradi se a 100 gradi evapora l'acqua? Come è possibile? È vero. Cioè, no. Dell'acido. Cioè, l'acido. Se abbiamo l'acido, quello che ha utilizzato per sgorgare il cesso. Il muriatico. Cioè. Scusate, mentre che voi comunque cianciavate, io ho fatto una ricerca anche chiamando un mio amico scienziato che dice che il tardigrado non può essere ucciso. Come no? No, perché addirittura l'hanno portato anche nello spazio, l'hanno abbandonato nel vuoto. Ed è tornato a casa. E allora datelo a Branson che parte. Scusate, a sto punto io propongo, lo mettiamo in un pacchettino, lo spediamo a Francesco o a Reggio Emilia. Esatto, che lui magari poi diventano amici. Che esatto. Dici? Ma se lo priviamo del amici, sonno, no. del cibo, dell'acqua, dell'aria, niente. No, perché se l'hanno abbandonato nello spazio è sopravvissuto. Non c'è aria, non c'è acqua. Che è certo è che poi è tornare a casa. A casa. Se sporizza quasi, non sporizza, però comunque riduce e ti resiste qualche migliaio di anni. No? Niente. Ragazzi, però il tardigrado credo che sia scappato di là perché sta parlando con Alexa. Io ve lo dico. Sì, Alexa parla, no, certa. E parla e dice cose, però non penso che sia scappato il tardigrado, resterà qua e non se ne vuole proprio andare. Ma se lo congeliamo a meno 274 gradi non sarà morto, ma resterà inerte quantomeno. Sì, che sta dicendo? Aspetta, che sta dicendo? Che sta dicendo? No, Sembra una risata. Ci sta più a percorso. Sta prendendo in giro. Però tu, Francesco, cazzo, ma il tardigrado sei andato a prendere? Prendi una bestia più una formica, niente, il tardigrado. Ma come è fatto? Fino a che non l'ho visto oggi non sapevo manco com'era. C'ha perculato il tardigrado. Infatti. Di quello che vuole il tardigrado, cioè può fare quello che vuole. Però scusa, mi spiegate una cosa. Io so che c'è stata una big band jazz di quelle proprio importanti. Un super gruppo. Sì, di quelli proprio, sai, quelli che facevano i tournée mondiali. Tipo mondiali di jazz? Facevano i tournée mondiali di jazz. Esistono i tournée mondiali di jazz, come ci potrebbe insegnare anche qui il Marco. Siamo di nuovo caduti. Raga, io non è che posso. Non so cosa. Questa diretta è veramente fantastica. Su Spreaker, I server sono inglesi, sicuramente. Passiamo a Spreaker. I server sono sicuramente inglesi. Ma sentiamo la canzone. Chi può? Sul tardigrado, esatto. Tardigrado, un nome che mi mette in difficoltà. Troppe R. Un animale poco puntuale. Sudato, sempre un po' accaldato. È un animale che non ama guardarsi allo specchio, perché arriva tardi e non si vede. Tardigrado, ti abbiamo invitato per fare i pronostici, ma ci hai preso per il deretano, tardigrado. Sì. c'è un cazzo. Abbiamo avuto pazienza con te, ma poi è finita, è finita, è finita anche la tua vita. Tardigrado, l'unica volta che dovevi arrivare tardi sei arrivato in anticipo e adesso sbam, sei morto. Tardigrado, nomen nomen. Come, com'è? Nome? Non lo so, ho tirato a caso, sai, sì, ho studiato latino. Diciamo cose a caso, dici così. Scusate, io volevo cose, qualcosa in aramaico e basta, però non mi sto qua a beare del fatto che io che sappia che sei aramaico. Intelligente, bravo, esatto. Mario. Bravo, io. Questo, questo secondo me intelligenti è... per sapere aramaico. Aramaico. Aramaico, esatto. Io volevo chiedere invece a Marco, che è esperto di tardigrado, di Marco, sì, ma sì, se il tardigrado è piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, sì, perché in Star Trek Discovery è grande, grande, grande, grande, grande? Ma no, non è che è grande il tardigrado, è tutto il resto che è piccolo. Ah, ecco, c'è tensione comunque tra italiani e inglesi anche in campo, strano, non si sarebbe mai creso. Secondo me parte la capocciata, Ma almeno un po' di sangue, visto è considerato. Ah, sì. Stanno veramente chiamando anche l'intervento dei vigili, dei vigili. Da celere proprio, sì, no, stanno diciamo in tenuta antisommossa. I giocatori inglesi sono abbastanza. Dai, sentiamo. Ecco. No, sì, nel senso stanno. La stanno a buttare in caciara. Comunque fa impressione vedere gli allenatori con l'impermeabile praticamente. Fa freddo. Sai che sotto l'impermeabile non hanno niente, nulla. Niente, esatto. Diciamo. Ma niente, niente. La famosa canzone. Forse riusciamo ad andare in diretta su Spreaker. Adesso, fra poco, comunichiamo questa bellissima notizia a tutto il resto del mondo. Nel frattempo invece non succede niente di bello per noi. No, decisamente no. Anzi, c'è un contropiede degli inglesi. E che cazzo, guarda tu. Cioè, cosa è successo? No, per fortuna niente. Però in questo niente perdurante, quando c'è un contropiede degli inglesi con Tripper, un po' ti viene anche un attimo di paura. Vabbè ragazzi, è brutta. Mala tempora currunt, direbbero i latini. Per fortuna si sono estinti. Mala tempora curnuta. Curnute mamma da. Vabbè. Qualcuno dica qualcosa perché io sono depresso. No, non no, qualche notizia. Qualche aspetta, notizia. Attenzione, attenzione, attenzione. Siamo degli strilli in vere condi. Aspettiamo, anche se dovrebbe essere successo sia... qualsiasi cosa. Non mi sembra niente di grosso. No, probabilmente un vicino che si è sentito non poco visto bene. Io. Voi avete sentito vicini urlare? Però non ci sono state trombette, per cui se non ci sono le trombette non succede. No, era proprio qualcuno che bestemmiava. Sì. E sento gente che continua a strillare. Ma credo che siano azioni che non vanno a buon gol fine. Gol perso, proprio perso. Ok, il famoso gol perso. Siamo intanto diretta su... Un bellissimo contropiede. Fuori. Ah, ecco, no, devo dire, una bella azione contropiede con un tiro molto dalla lunga distanza di Chiesa. Ma Chiesa ci ha provato, insomma, però... Vabbè. Se non ci salva neanche il Vaticano stavolta, io non so... Gol perso. Gol perso. Gol cazzo. Azzurri. Dai ragazzi, seguiteci su Spreaker. Perché piove. E non sono abituati a giocare sotto l'acqua, mentre gli inglesi sono molto più abituati e quindi ci stracciano per il momento. Ma forse se si ferma un po' l'acqua e il terreno diventa meno scivoloso, oltre ad aumentare il sudore sulle magliette, quindi la puzza, l'odore, quindi staranno più lontani uno dall'altro, probabilmente l'Italia potrebbe anche pareggiare e vincere. Ma speriamo, per la gioia di tutti, che la partita sia breve, che non si vada ai supplementari, specialmente ai rigori. Ah, guarda, quella è la speranza che c'ho sempre paroni. Io. E Michela se ne va via prima del tempo e ci lascia tutti da soli. E se ci girano i maroni, chiudiamo la diretta anche noi prima. Yeah. Wow. Succedono cose strane in area di rigore. Gente che inciampa, gente che si rialza, gente che tira a banana. Per fortuna. E la palla va fuori. Siamo per ora tutta storia. Di partire la situazione. Per ora sotto gli impermeabili niente. Infatti. Veramente un grandissimo pezzo. Com'è la situazione, Pizzi? Com'è la situazione? Siamo, siamo online su Spreaker, abbiamo già dato tutti quanti i link, siamo comunque in diretta e quindi continuiamo a sentirci. Ne approfittiamo a questo punto per provare a far vincere un nuovo cavolo Verza a un'altra persona, dato che ci siamo. Vedo che poi tanto non li mandiamo. E poi proviamo a rifare quel mandiamo quello di Shure, quel collegamento internazionale. Ecco, sta squillando, vediamo un attimo che cosa succede. Qui considerate che secondo me questa persona potrebbe anche insultarci, perché non credo che sempre che ci risponde che fosse avvertita, insomma. Secondo me vede un numero anche questo sconosciuto e dice la solita televendita. Ma secondo me compare spam proprio. esatto numero spam. Infatti non risponde. Sì, attenzione, risponde. Lei è su? Lei è Simone. Lei è motivo per questa bella chiamata. Allora, lei è su? Sta ascoltando Ra? Sta ascoltando Ra? Lei sta sto parlando di cartoni animati con mio figlio. No, è sbagliato. No, guardi, 3 secondi e le rubiamo solo 3 secondi. Però lei in questo momento sta ascoltando Ra? Bravo, bravissimo. Lei ha vinto. Lei è un clamoroso vincitore di un cavolo Verza. Quindi, insomma, volevamo permetterci, insomma, di festeggiare con lei questo grande momento, caro Roberto Marin. Bella sorpresa, bella chiamata in diretta. Benissimo. Mi avete beccato proprio nel momento migliore. Nel momento del bisogno, noi li chiamiamo sempre. Insomma, quindi, vabbè, quindi niente partita per lei, giustamente. Ma stai guardando la partita? Diciamo, stiamo guardando. Noi stiamo facendo la nostra trasmissione che va un po' collaterale, diciamo così. Insomma, quindi. Okay. Bene, Roberto, grazie di tutto. Riceverà il nostro cavolo Verza. Lei è felice, no? Giusto, del cavolo Verza. Lasci i dati alla segreteria. Mi raccomando. Sì. Ascoltate Runtime Radio. Giusto, grande. Bravo. Ciao. Allora, Pizzi, posso dire una cosa? Io credo che questo sia arrivato il momento, volenti o nolenti, di riavviare il tuo computer, anche se sappiamo quello che comporta, perché ci dicono dalla chat che neanche gli audio di Spreaker è rovinato ed accelerato. Ragazzi, non so che altro può succedere, sì, le cavallette, non lo so. L'unica cosa dice la pubblicità arrivava perfetta, voi no. Quindi probabilmente nel sapete quando Windows pappalla tutti quanti i canali audio, no? Oltre che i coglioni, sì. Niente, quindi io no. In questo momento in realtà quello che sta succedendo, oltre ad essere colpa di Windows, non so di chi sia, però mi do del culo che il giorno della finale, insieme alle stupide creature e tutto quanto, insomma, fatta una cosa organizzata, carina, insomma, succedono tutte queste cose, perché riavviare il computer significa una mezza tragedia. Adesso te lo dico io quello che è successo, non volevo dirlo, però c'è stato l'ISIS. Pure. No, e sono 3 vaccinati in stanza. Ah, e quello vedi. No, 4 vaccinati. 3 e mezzo, nel senso, noi abbiamo completato il ciclo e quindi adesso siamo 5G e probabilmente disturbiamo qualcosa. Siamo 15G e mezzo. Quindi. Esatto. Guardate un po' se adesso mi sentite meglio o no. Secondo me adesso si è impallato tutto. Vabbè, allora, voi rimanete qua su Skype con noi e noi proviamo a fare un... Arturino ci dice siete campionati a 4 bit, cioè esatto, proprio esatto. La tragedia delle tragedie. Non è così strano. Ma come? Vabbè, allora io riavvio tutto, quindi voi Muoia Sansone, rimanete qua. Chi ci ascolterà in podcast sentirà questo fantastico momento del riavvio del computer, tra l'altro al quale Microsoft fosse artistica, avesse una velleità artistica, ci sarebbe una canzone durante il riavvio di Windows. Ma io ci metterei Rutti e Scureggia. No, sentiamo la canzone del riavvio di Windows. Grandi. Benvenuti. Best. Windows. Allora, questa è una presa di posizione che mi sento di non condividere, però, ragazzi, scusatemi. Meno male che tutto questo non andrà perduto come lacrime d'avvio. Apple is working well. Io non sono disposto a prestarmi a questa marchetta. Beh sì, in effetti dà un po'. Però in realtà ci hanno ragione. Beh no, adesso non esageriamo, non esageriamo. Linux. Nel frattempo partita a Cardio Palma. No, quello è un'altra radio Linux, oh, non fate casino. L'Inghilterra fa proprio muro. Ah, è vero, nel frattempo c'era la partita, me l'ho dimenticato, così affascinato da questo brano. Cioè, quindi mi stai dicendo che l'Italia attacca, ma non succede niente. No, no, l'Italia s'attacca. Attacca e s'attacca. S'attacca arca, s'attacca. L'Inghilterra fa muro. Comunque Pizzi, tanto per fare avanspettacolo, ci siamo, no? Quasi, ragazzi. Io vi volevo far sentire una cosa, anche se ovviamente non abbiamo i mezzi per farvela sentire come si deve. Però quando tu a un certo punto hai detto Windows quando si riavvia dovrebbe mettere una canzone, forse i più giovani non se lo ricordano, ma una Windows Song dei Weezer esiste. È impressionante. È solo che è un po' un problema farvelo sentire. Aspetta, mando un po' avanti. Kenosha, Wisconsin's own Weezer! Aspetta. È bella di conoscere. Perché? Questa canzone, molti non lo sanno, ma è contenuta nell'installazione di Windows 95. Quando fu lanciato Windows 95... c'era questo brano The Weezer. Siamo passati a un altro programma. E tanto che dobbiamo fare, ragazzi? Allora, siamo dice qualcosa, siamo di online. Siamo live dove? Siamo live sul nostro sito runtimeradio.it. Okay. E per riprenderci un attimo da questo stress, ragazzi, like cats in cool law, because they don't know what it means. They stop their minds at the sound of a word, instead to go deeper into a hole. Totally free, totally free, totally free, totally free, totally free, totally free, totally free. Freedom is right. Freedom is good. I don't wanna sleep. Sleep, sleep, sleep, sleep. The snake is there, climbing on the mountain. Shaking like this, you hear the scream. Louder, louder, when you realize I'm lost. You carry on, you hear the scream. Close to your tent, but wasn't me. Close to your tent, but wasn't me. You wanna wait, but you can't stop sleep. Make someone sing it a song, telling it's good like this. Wait! Radio Passion is on the air. We are in Milan today, and we gonna have a question. Excuse me, lady, a little question. Do you like cats in culo? Oh, she doesn't understand what I mean. Lady, do you like the new song about less stupid creature and cats in culo? Yeah, it's my favorite song. I love the groovy. Oh, see, I love cats in culo. It's a beautiful song. My favorite song. But now, where is my dog? Some people want more and more, like a fucking cigarette. They give you a sledge, and you wanna go down the hill, but without a break. You can make a shit cake. You can part your body into the trees. But the snow is yellow. The snow is yellow. The snow is yellow. The snow is yellow. The snow is yellow. The snow is yellow. Tap tap tap do da da do da. Ba do ba do be a ba do da. Tap tap tap do da da do da. Tap tap tap do da da do da. Ba do ba do be a ba do da. Tap tap tap do da da do da. One Katzenkulo, two Katzenkulo, three Katzenkulo, and many Katzenkulo. Say these stamps on my Katzenkulo. Say these lay off in my Katzenkulo. One Katzenkulo in a county jail. Two Katzenkulo in a county jail. Two Katzenkulo in a county jail. Presa. Ne un'altra? No. Mauro, allora. Uè, ciao Marco, tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Allora, quando ci vediamo? Non so, sono molto impegnato, sai, al momento. Annaggia, avrei proprio bisogno. Quando hai tempo? Ieri. Allora passavo da te alle 3. Facevi le 15.45 che finivo di mangiare. Ah, ok, ero più comodo anch'io. Allora passavo? Va bene, dai, ti aspettavo. Ti ricordavi di portarmi il CD dei Pooh? Ah sì, te lo portavo ieri e me lo ascoltai domani, con calma. Ti ringrazio. Andavi tranquillo, a ieri. A ieri. L'unico artista in Svizzera che sa volare! Tu volere mia fotografia fare signatura! Otra che vuoi testa riva che non è frego e rastro un clout sito di se utile te lo stanò. Molto bravissima questa band che suona. Io paga loro buono vino italiano rosso. Per me acqua miserabile, grazie. Secondo te Mazzorum è un genitivo? Può essere. Sì, può essere. Donne, è arrivato l'orgasmo. Con che senso? E beh, vabbè, sempre queste code meravigliose nelle canzoni delle stupide creature. Bravi! Tra l'altro, uno zappiano come pochi, bellissimo. Grazie, Francesco. Un cosa? Francesco ci ha appena fatto un grande complinaso. Complinaso, va bene. Comunque, ragazzi, ho telefonato a Mancini nel frattempo. Sì. Mi ha spiegato che stiamo perdendo per rispetto a Berrettini. È giusto, insomma, non è che se va a lasciare da solo, perché poi dopo sarebbe pure umiliante, no? Tornare, tu sei quello che ha perso. Anche perché domani vanno tutti da Mattarella, no? Al Quirinale, quindi ti pare il caso che 11 di abbiamo vinto e uno un po' stronzo il COVID perso a Mattarella vanno? Ma Mattarella è vaccinato e poi comunque sì, c'è l'incontro istituzionale. Sì. Poi Mattarella, te volevo dire, Mattarella sta allo stadio a Wembley, quindi se non si lo piglia là il problema non si pone. Ma la regina non c'è, quindi. Ma la regina, ma che cazzo gliene frega? Però c'è Boris Johnson, probabilmente. Io però nel frattempo, prima di parlare di musica, perché adesso parliamo un attimo di musica, cioè ci facciamo un attimo un excursus con Michela, che sapete è anche un po' un'esperta, c'è cioè la sua trasmissione mono. E volevo fare una dedica a un mio caro amico Marco Bianchi, che è qui insomma in diretta con noi, che io considero forse tra i miei amici più fraterni, anche se ci vediamo poco. Ok, mi dicono che siamo quasi in chiusura. Io c'avevo una bella sorpresa. Quanto ho? Due minuti? Due minuti bastano. Quanto c'ho io ancora? Un minuto solo. Sentite la qualità dell'audio. Mi dicono un minuto solo. E che ci faccio io con un minuto solo? Non lo posso mettere quell'altro disco. Che c'è pazzo. Allora io direi di chiudere. Sai con che cosa? Di nuovo con Patrick Rondat. Il cosa? Adesso mi fai due minuti. Adesso. Uno dice un minuto, sì, uno era dice un altro minuto, ma io che devo fare? Allora, siccome c'era una cosa magistrale di un chitarrista della nuova generazione che fa proprio l'opposto di Patrick Rondat, chiudiamo con lui, poi ve lo faccio sentire meglio. Dei legati, vai su lì dove ti ho detto al punto giusto, vi saluta, ci vediamo venerdì prossimo, ricordatevi questi grandi dischi, sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare di questi chitarristi nuovi. No, io dico quello Nagaoka, stavo dicendo adesso, si deve spaventare lui perché è un legatore come lui, capito? La tecnica è quella. Oh Simone, io però vorrei fare aspetta, perché senti l'audio. Che cosa è successo? Cosa è successo? Ce la facciamo a sentirne almeno due minuti di questo brano. Due minuti sono passati. Se no interrompo la trasmissione, me ne vado. Lui se ne va, capisci così? Mi state facendo soffrire stasera, no, capito? Io devo far sentire questi grandi chitarristi ai ragazzi, sentiamolo. Nin Nagaoka! E vabbè. Insomma, sono momenti, ci tenevo di condividere questa cosa con Marco Bianchi, che so che insomma ha portato la filosofia di Richard Benson nel Grande Nord, insomma. Però il Grande Nord, e questa è la domanda che io volevo porre alla chat, il Grande Nord, come anche il resto del Grande Centro, il Grande Sud, le grandi isole, come hanno fatto a vivere gli anni 90 senza Richard Benson? Nota? Sì. Senza io, so. Ragazzi, a Roma e limitrofe dovete sapere che se negli anni 90 in televisione volevi ascoltare un po' di metal, ascoltavi il programma televisivo di una televisione privata piccolissima che si chiamava TVA40, che trasmetteva Ottava Nota di Richard Benson. No, beh, non è che dice Benson, sì, comunque vabbè, dove lui faceva le famose Richard Benson, al di là delle sue cialtronate, la prossima volta faremo sentire le telefonate di Richard Benson, sa belle che vabbè, quello, però lì è quando lui poverino era completamente perso e sbinariato, però sì. La musica che faceva ascoltare in quegli anni, al di là di tutto il resto, era bella musica, poi lui poteva rovinare tutto con due frasi, però insomma. Ma a proposito di musica, cara Michela, noi siamo andati a cercare, dato che dobbiamo io vorrei dire soltanto che io ho lanciato yogurt a profusione colazione. Eh sì, sì, polli e yogurt. Sì, polli e yogurt. Cioè, in realtà a Roma per i ragazzi Richard Benson è stato terapeutico, diciamo, sì, così. Cioè, sì, la gente, sì, quando non c'aveva da sfogarsi, andava ai concerti di Richard Benson, dove, ricordiamo, ti fornivano fuori il, sì, lo yogurt e l'insalata da tiragli. Sì. Quindi c'era, cioè, una cosa, insomma. Posso aggiungere un dettaglio in più a questa informazione, prego, ragazzi? Prego. I polli, ma gli yogurt, li compravano lui ed Esther al supermercato dove lavorava la moglie di un mio amico, alla zona presente di Piazza Vittorio. Quindi, per farvi capire che in realtà era tutto polli straorganizzato. Vabbè, ma sì, ma da loro, dico, da loro. Sì, appunto, dicevo che li davano fuori le cose. Sì, quindi, sì. Comunque, dicevamo, allora, dato che siamo tra la fine del primo e del secondo tempo e siamo un po' tristi perché stiamo perdendo, abbiamo detto, sentiamoci un trittico musicale. Un trittico musicale, però, sulla base di cosa? Sulla base delle canzoni più brutte della storia dell'umanità. Esatto. Dicevo, carbonara, cacio e pepe. Così trittico. Sentiamo anche quello che ne pensano Marco Gualdi e Marco Bianchi, insomma. Le stupide creature tutte. Esatto, esatto. Allora, intanto, tra le peggiori c'è senz'altro We Build This City, singolo apparso nel 1985, firmato Starship. La band è nata dalle ceneri degli Jefferson Airplane, storico gruppo degli anni 60. Una canzone molto brutta, con video bruttissimo. Vabbè, il video anni 80, insomma, erano tutti brutti i video degli anni 80. Yeah, abbastanza. Say you don't know me, I'll recognize my face. Gualdi, perché questa canzone viene riconosciuta come tra le 5 canzoni più brutte della storia? Io non lo so, sto ascoltando e non mi sembra così brutta. Infatti, pure secondo me, non era poi. Cioè, secondo me ho ascoltato pensai canzoni peggiori. Molto peggiori. Però il video è veramente brutto. Vabbè, ma il video. Cioè, video brutti, cioè, sono conto. Le canzoni brutte sono altre. Cioè, questa è una canzone dimenticabile, però brutta. Cioè, un fantasma. Se volete vi racconto il video, ma ci sono dei fantasmi su una collina. Ok. Dentro. Sì, proprio a casaccio. Sulla nel collina. Senso che, cioè, il montaggio fantasmi di questo video. Stiamo dentro la collina. Sentiamo Marco Bianchi e Stupide Creature cosa ne pensano di questo brano. Ma il brano mi sembra davvero ben scritto e funzionale alla sua opera. Pensando a quegli anni si potrebbe dire un capolavoro. Un capolavoro. O anche un cafolavoro. Un cafolavoro. Scusate ragazzi, io non ho un attimo di là a prendere una birra. Perché sento Ter Parisi in sulle cuffie? No, non è proprio Ter Parisi, no. Queste qua sono gli Starship Troopers. Pensa. No, senza Troopers. La canzone si chiama We Build the City e dura pure 4 minuti e 46. Ci hanno avuto pure un bel coraggio. Che c'è Vega sto video, regalo. Vabbè, ma poi l'altra canzone invece, Michela? Allora, l'altra canzone You're Having My Baby di Paul Anka del 1974. Già Paul Anka. Canzone votata come la peggiore della storia da un sondaggio della CNN del 2006. Vediamo, ascoltiamola. Polanca. Che insomma. Having my baby. What a lovely way of saying how much you love me. Having my baby. What a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it. Your face is glowing. Beh, diciamo che qui la cosa brutta, secondo me, di questa canzone è che ricordiamo, ho sentito cose peggiori ancora, sì, una volta, è l'arrangiamento e tutta la parte di produzione, insomma, 74 che fa un po' schifo. Ma Paul Anka non era quello che faceva le canzoni in bianco e nero con Nils Edaga? Come sono le canzoni in bianco e nero, Pizzi? Quelle a colori come sono? Che, quelli che cantavano negli anni 50, cantava negli anni 50 Paul Anka? Beh, sì, credo di sì. Era Polanka Sbilenka. Cioè, Polanka Sbilenka. Cioè. Polanka Sbilenka. Sentiamo le stupide creature che hanno cultura musicale. Io vorrei replicare questo insieme a voi. Questa è la parte più significativa della canzone, che peraltro, come diceva Pizzi, giustamente, ha un arrangiamento magari discutibile, ma di per sé il brano non, è scritto. Non era terribile, non era terribile. Ragazzi, io ho appena fatto una scoperta impressionante su Polanca. È vivo? È ancora vivo! No, bravo, e risulta, bravo, e risulta ancora in attività. Addirittura. Bravissim proprio. Io... La droga lo fa. Polanca. Michela, c'è il terzo brano. Il terzo brano è I Want My Baby Back di Jimmy Cross, nominata nel 1977 il brano peggiore della storia dal DJ britannico Kenny Everett. Ah, vabbè, questa è. E ovviamente, essendo inglese, è un rosicone. Quindi. Cioè, è arbitrario. È un rock and roll. Schifo l'audio. Cioè, gracchia pure. Ma la voce sua. Ma poi questo è originale, Se sì. Riesce a gracchiare così con la voce è un fenomeno. L'ho comprato, il brano, ragazzi. L'ho pagato. I don't hardly know where to begin. I remember we were cruising home from a Beatles concert. Sei condannato ad ascoltarlo per sempre, tutti i giorni della tua vita. In macchina con però, ragazzi, io devo dire una cosa: tutta la musica più brutta del mondo, se si ferma a prima dell'inizio della carriera di Gigi D'Alessio, non c'ha valore. Ok, noi non lo consideriamo neanche un cantautore, okay. Gigi D'Alessio. Ascoltiamo che senti, c'è pure la parte, capito, concettuale, no? Concettualmente era un merda, cioè, vabbè, non mannava di fare troppe note, quindi dice, intanto c'è un pezzo dove parlo, cioè, la canzone c'è il pezzo da solo, c'è il pezzo di batteria, no? Invece la luce, c'è il pezzo che chiacchiera. Qui sta spiegando che deve pagare il mutuo. Vabbè, con i trattori dietro, senti, i trattori. Cioè, no, sono aerei. Bombardano. Beh, questa è brutta. Voglio dietro il mio bambino. Esatto. Perché andare in guerra. Cioè, no, ma tu dici quello, in quel senso lì. Potrebbe anche essere. Oh, la mia fidanzata, io sono in guerra, ridatemi la mia donna. Qui c'è l'acqua, sta a lavare, vedi, sta a far bidet in questo momento. Non so, vabbè. Perché si è cagato sotto. Sì, sentiamo le stupide creature che cosa ci dicono di questo Forse brano. Forse questa è la peggiore sicuramente delle tre. Sai, questo brano di Jimmy Cross. Ho ricevuto la mia certificazione verde. Brava, sei certificata verde. Ma non sono passate 48 ore. Io aborro. Posso andare a menare agli inglesi e sono però prendi la Delta lì. Esatto, attenta che la te prendi la Delta. Okay. La Delta integrale HF, sì. Esatto. Un c'è anche molto una bello, canzone che si chiama Scozia canta e... Metterei in dubbio le orecchie del DJ, le orecchie della CNN e le orecchie del primo che non mi ricordo che orecchie fossero. Pronto padiglione auricolare, c'è rume. Da quello che senti probabilmente ce n'è tanto. Le vibrazioni attraverso l'organo uditivo non si muovono con fluidità perché c'è rume. E rume, quando c'è rume, non passa bene il suono, la vibrazione non arriva. La staffa, l'incudine e il martelletto non comunicano bene con la membrana uditiva. Il timpano sporco non va bene. Il timpano sporco in tedesco è Scheißerpauken, che vuol dire letteralmente timpano di merda, ma in realtà non è colpa del timpano, è colpa del cerume. Quindi direi a tutti questi qua di lavarsi un po' le orecchie. Comunque volevamo dire anche una cosa, devo dissentire purtroppo questa volta sul fatto che vi sembrerà strano, ma il signor Gigi D'Alessio è l'ultimo dei problemi della cultura musicale italiana, in quanto è un abilissimo compositore, se anche poi la sua musica magari quella più commerciale può stonare, ma vi posso garantire che è un signor musicista. E io vi invito a cercare Gigi D'Alessio che imita Renato Carosone in uno spettacolo che fece credo alla fine degli anni 90, quando ancora non era straconosciutissimo, ed è veramente notevole. Lo so, e poi, poi è la conoscenza, la conoscenscenza, diciamo. Che diceva poi... il mutuo da pagare. Fatto, sì, so. C'è il mutuo, è come la qualità. Comunque, in ogni caso, qualità. Sì, non c'è, cioè, c'è molto di peggio. Basta affacciarsi sul panorama trap italiano degli ultimi due anni. Insomma, ah, cioè, anche Marco Guardi ha fatto una canzone. Ma perché, scusa, il trap è musica? Anche Marco Guardi ha fatto una canzone trap, comunque. Sì, sì. È vero, è vero. Adesso mi risulta un po' complicato andarlo a cercare, però. Anzi, visto che c'è il cantato, potrebbe, le stupide creature potrebbero farci la base, guarda. Vai, vai, ti facciamo una base al volo. No, ma adesso non me la ricordo, però un giorno te la faremo. Un giorno la No, no, c'è proprio un testo, proprio fu elaborato proprio alla grande. Magari Pizzo lo recupera. No, io in questo momento non lo posso recuperare, però sto provando a rifare quel insomma, quel collegamento internazionale importante. C'è un cartellino giallo in campo per cartellino Gaillo, anche detto per qualcuno, okay. Delle... per Chiesa. Ok, un momento, Chiesa. Un momento soltanto, ragazzi. Bisogna aspettare, c'è un protocollo. Oh, come sembra questa la canzone più brutta della storia? No, no, c'è un protocollo. Sta bene. È il telefono, è il telefono. Sono squillo. Sì. Ah, okay. C'è un protocollo. Pronto? Hello? Hello, this is the Crowley and One. Yes, this is Runtime Radio from Italy. We want to talk with the Queen. It's possible? The Queen is Sorry, but your collegament is very bad, and we want to talk with the Queen, please. Okay, 10 seconds. Michela, vuoi fare delle domande alla regina? Yes. Pronto, regina? Hello, Queen. Queen, yes. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm very, very, very, very pleased to meet you. Yeah, we are very happy you are here. And it's incredible because we are a very, very little radio. You know who you are, Boris. Who is? Oh, we are Runtime Radio. Runtime Radio. Runtime Radio speaking. No, Regina, no. No. Her Majesty, no, no, don't push the button, please. Yes. Italian. Italian speaking. I speak un pochito italiano. Un pochito è spagnolo, però, signora regina. Pochito, no, imparato italiano. Pochetto si dice. Pochetto. Ma io ho imparato il linguaggio italico sì, da serie Vangelo in italiano su Messi. Guardi, a me, signora regina, mi presento, sua maestà, io sono Simone Pizzi, volevo farle una domanda proprio perché secondo me lei ha imparato l'italiano da quando non c'è più la buonanima di suo marito, che insomma tutti abbiamo amato e rispettato, su Tinder, lei quando è morto suo marito lei è andata su Tinder, dicono. No. Provato. Nel frattempo hanno buttato giù un giocatore. Non interrompere la regina. Inglesi, però. Yeah, scusi, però. Scusi. Sorry, Her Majesty, sorry. No, stacca le dita dal telefono. No, è la guancia, perché secondo me, signora regina, lei deve tenere il telefono un po' più distante, ok? Distante. Distante cosa? Lo sappiamo che è vecchia. Comunque, regina, lo sta vedendo la finale tra Italia e Inghilterra, queste due nazioni che tanto si amano? Finale di cosa? Finale Euro 2020. The European Championship. Oh, yeah, ma please. We're not in Europe anymore. Non siamo in Europa, quindi non è sciocco. Oh, no, your son is in the stadium. Nonna, stacca le dita dal telefono. Ah, non dico così. Allora, I'm sorry. Carlo, no, Carlo is here. Carlo is here. Yes. Carlo, ah, sì. Carlo okay. is with you. Allora, guardi, signora regina, siccome che abbiamo, se noi sappiamo che lei è vecchia e deve andare a dormire, ci consenta semplicemente. No, posso fare una domanda? Posso fare solo regina? Una domanda regina. Alla regina? No, volevo farglielo fare alle stupide creature una domanda. Sentiamo se loro hanno una domanda per la regina. Magari sai un'occasione, poi tocca a te. Sì. Allora, noi vorremmo, se fosse possibile, nonna, if it's possible, we would like to talk again Italian radio game. Yes, do you know Cassie Culo? I try to find some legs to get. Got in studio Mr. Simone Vailati. Yes. Do you know Simone Vailati? Yes. Please. Nonna. Hello. Ma basta, nonna, perché dici no? Perché mi ricorda mia nonna che la staccava le dita dal telefono. Va bene. Sbano, volevi fare tu una domanda alla regina, così la lasciamo andare. I'm really proud to meet you, even if telephone. So, please, Miss Queen, just a little question, just a little one. Sì, vabbè, vai. Ma non cazzo mori, vecchia da merda! No, arrivederci, signora regina! Arrivederci, nonna! No, tutto a posto. Arrivederci, buonanotte. Good night, my queen. So just one thing, when you ask a Tinder, io dico io non uso Tinder. No. Vabbè, ciao regina. Arrivederci. Grazie regina, grazie di tutto. Però mi sembrava una domanda legittima. No, non era una domanda, cioè stava facendo arbitrariamente. No, la mia che mi avete. No, vabbè. È una domanda legittima. Devi sempre considerare sempre l'istituzione, insomma, che bisogna sempre rispettare, no? Cioè, alla fine, comunque. Anche le nonne vogliono rispetto. Beh, tutto sommato, poi con questo telefono aveva delle difficoltà. Fantastica, insomma. Veramente. Cioè, ma chi ce l'ha avuta? È vero. Va bene. Allora, ci ascoltiamo il secondo brano delle stupide creature. Yes. Così intanto raccogliete informazioni su quello che sta succedendo in campo. Niente, un cazzo di niente. Psicofarmaci inalati, iniettati, ingeriti. Psicofarmaci anelati da pazienti ormai guariti. Psicofarmaci allegra la follia, se ogni stato dell'umore è una patologia. Psicofarmaci, se sei alla frutta, psicofarmaci, se sei malato, psicofarmaci, ma se sei sano, psicofarmaci. Ti senti meglio se sei un po' depresso. Sei depresso quando stai un pochino meglio. Ti senti calmo quando sei fervente. Se la fronte fa fronte alla mente che mente. Psicofarmaci, maledetti amati psicofarmaci, conseguenze delle nostre dipendenze. Psicofarmaci, li bevi con l'acqua, ma se la vita ti fa schifo, bevi whisky e poi il gin e poi il psicofarmaco, poi vada via anche. Pastiglie e polvere nei cassetti, negli armadietti, negli astuccetti. La morfina dà un sollievo a non finire, ma te la danno solo quando stai per morire. Psicofarmaci, il tradimento di un'emozione, vai dentro. Per cantare a squarciagola questa canzone. Ansiolitici non ci rendono medici, smettiamo di suonare. Ma come ti sei stunato? E andiamo tutti a prendere una supposta di Valium. Cioè praticamente gli applausi sono più lunghi della canzone. Eccola, questo è quello che sta succedendo adesso allo stadio. Tra l'altro complimenti alle stupide creature, bellissima canzone. Bravi, come al solito. Bravi. Però ragazzi, io devo dire la verità, cioè noi in queste dirette, soprattutto nelle ultime due, un po' per stanchezza, un po' per problemi tecnici, diciamo ci siamo dimenticati tante cose. L'altra settimana ci siamo dimenticati la scimmia, ma in realtà ci siamo dimenticati anche una persona, l'abbiamo lasciata, che se sentivamo quello che faceva, poi dopo non sappiamo. Ecco, Dieter, lo ricordate il tifoso austriaco, però italiano, giustamente, però sento un ritorno da Dieter, però pronto Dieter? Allo? Pronto? Allo? Ti abbiamo dimenticato l'altra settimana. Ho visto che avete dimenticato, io sono rimasto qui per 15 giorni, qui sono dentro il bagno e dentro lo stadio. Addirittura, 15 giorni sono tanti. Cioè, non è mai vinto Dieter? E voi non avete chiamato la guardia inglese e sono rimasto chiuso qui. No, noi abbiamo chiamato, però poi noi non abbiamo seguito la situazione, non potevamo, eravamo in Italia, quindi... Non so chi avete chiamato, ma io sono rimasto chiuso qui 15 giorni dentro il cesso, dentro il cesso Fortunata, perché dentro il simpatico bello stadio di Wembley. Sì, ma quindi praticamente in 15 giorni non è mai venuto nessuno in pratica? No, ho fatto conoscenza con un intera famiglia di ratti, però bellissimi, molto simpatici, di origini scozzese. Ah, ok, che erano quelli dell'altra volta. Ratti scozzesi molto bravi. Bravi. C'era Francesco, le faceva una domanda. Francesco, prego. Sì, è dimagrito, ma no, a parte questo, immagino di sì. Vabbè, mi risponde, ma è riuscito ad uscire adesso? Comunque dovrebbe esserci la gente fuori. Dov'è? Allora, dove si trova adesso? Sono sempre dentro lo stadio, però sì, sono dovuto tornare dentro bagno, perché in questo momento sono circondato da tifosi in crisi, perché ho provato a uscire. Stadio, ma sono venuti tutti quanti inglesi, tutti incazzati, tutti quanti tagli merda. Io sono sempre meglio sporco, però tagli merda per forza, perché lei sicuramente era tutto sporco, chiaramente. Anche tra l'altro, se non dovete di entrare dentro c'è, se chiudo di nuovo dentro stesso c'è, tra l'altro, quindi no, una bella. E quindi adesso parla anche piano, perché poi se scoprono che è occupato, potrebbero spagnersi. Poi c'è una cosa, si mimetizzi, cioè tolga quella maglietta, ormai lo so che forse ci tiene molto, però a questo punto deve sopravvivere. Io sento delle urla intanto. Ho sentito un rumore da faccia, è successo qualcosa, perché io prima ho sentito inglesi che risultavano. Troppo poco per essere un gol. Ok. Posso dire che il nostro Dieter mi ricorda tanto il nostro Gibbone. Sì, alla fine ha fatto un po' tipo la stessa fine. Senta, ma Dieter, ma quindi lei non sa niente che l'Italia è arrivata in finale di Euro 2020? È arrivata in finale? Sì, sì, adesso in questo momento stanno giocando Italia e Inghilterra. In questo momento. Allora, quindi adesso io posso uscire da porta e trovare tanti italiani? Sì, non so, secondo me no, guardi. Cioè io dipende dove sta. Le suggerisco di rimanere almeno un'altra notte, insomma. Ma io voglio uscire da qui, non posso stare qui dentro stadio, di cui mi dato io sono pezzo, sono tutto marrone ormai, tutti quanti i ratti. Se è marrone non si vede neanche l'azzurro, può anche uscire, insomma. Sentiamo un suggerimento alle stupide creature, come uscirebbero loro da questa situazione un po' così. Ciunga ciunga ciu, ciunga ciunga ciu, la la la la. Ah no. Ciunga ciunga ciu, ciunga ciu, la la la la. Andavo a 100 all'ora per provare la bimba. Madonna. Ma cos'è? La la la la la. Ciunga ciunga ciu, ciunga ciunga ciu, la la la la. Ciunga ciunga ciu, ciunga ciunga ciu, la la la la la. Vabbè, Dieter è contento di questo suggerimento? No, non credo che mi sarà molto utile questo suggerimento così a nato. Sì, anche secondo me non insomma, alla fine la non credo che sia utile per uscire fuori dallo stadio di Wembley, questo è abbastanza sicuro, insomma. Va bene, raga, Michela, vuoi salutare Dieter? Ciao Dieter, mi raccomando, io fossi in te non uscirei neanche stavolta. E ti veniamo a prendere noi. Sto chiuso qui dentro e tranquillo, via. Noi intanto abbiamo la certificazione verde, ti veniamo a prendere noi. Se non esce oggi questo minimo fino a settembre-ottobre resta là dentro. Sì, allora c'è Mauro che vuole fare una domanda a Dieter. Dieter, stai tranquillo, non ti perdi niente, stai tranquillo proprio. Stai bene dove stai, dico. Abbiamo rischiato il secondo gol e Donnarumma è stato veramente bene, arrivederci. Quindi io che faccio adesso? Sto fermo qui oppure provo a evadere? Vai, facci sapere poi. Allora, se riesci a evadere poi facci. Guarda, se vuoi un suggerimento, secondo me tu aspetta un attimo che finisce la partita, poi a secondo di chi ha vinto, probabilmente gli inglesi, ti mischi buttando in mezzo facendo ale e in qualche maniera prendi un taxi e torni via, sempre che il taxi ti accetti, perché io immagino che tu debba essere in condizione. Ma a casa nessuno si è preoccupato di sapere come sta? No, perché io ho detto di non, che fino a fine che non c'è partita, gli europei finale, okay, non mi devono rompere. È vero te la sei cercata allora Dieter, allora, scusa, a sto punto resta lì e mo te cercheranno sì, prima o poi. Dopo mi cercano, io sono un po' rovinato, perché se non mi chiamano non mi liberano qui, perché io non ho più credito, non ho più niente, ho solo amici ratti qui scottati. Vabbè, intanto ogni tanto la chiamiamo noi, dai, così almeno anche quando è finita la trasmissione, se vuoi la possiamo. Io intanto allora aspetto voi, caso mai chiamate forse ordini di ingressi, esatto, sperando che lei non faccia la fine del gibbone, come si chiama il gibbone? Pippone Gibbone? È meglio così. Va bene, grazie Dieter, arrivederci. Io mi chiudo dentro cesta. Ok, ciao. Ebbene, niente, quindi abbiamo sentito anche Dieter, insomma. Però guarda, l'ho sentito calmo. Sì, più tranquillo, d'altra parte era più disperato. Secondo me ormai ha preso un po' la sua dimensione, no? In qualche maniera. Secondo me ha fatto amicizia con sti ratti, se gode la vita così. Ricorda un po' la storia di Robinson Crusoe. Sì, col pallone Wilson. Robinson Crusoe. Sì, no, quello no. No, quello era Castaway. Ho fatto una crasi. Crusoe. Vabbè, però anche Robinson. Era Crustaway. Crustaway. Era anche Crustaway, ma quello è un altro discorso. Bene, bene, bene. Vedo immagini di gatti sodomizzati da cani, però in questo momento. Ma di solito succede il contrario, anche se uno lo direbbe, Marco. Non so. No, sono andati via. Sono i gatti che prendono il sopravvento sui cani in famiglia. Sì, è un po' come famiglia nostra. Come i famosi cartoni animati di Mary Melody, Tom e Jerry. Topo era uno stronzo di merda. Allora, comunque Andrew ci dice che lui. Attenzione, attenzione, attenzione, deve essere successo qualcosa. Diteci. Attenzione, trombette urla, trombette urla, trombette urla. Attenzione, attenzione. Gol, giuro, Shure ci dice gol. Allora, più particolari, ragazzi, più dettagli. Dettaglio, dettaglio. Attenzione, forse dal calcio d'anculo. Forse dal calcio d'angolo. Vai Marco, fai la telecronaca in diretta. Attenzione, calcio d'angolo. Sto vedendo dei replay. Calcio d'angolo. Eccoci, eccoci, attenzione, calcio d'angolo. Aspetta, aspetta, io ancora non ce l'ho il gol. Potrebbe non eccolo, eccolo, eccolo, mezzo milione. Grande mischione, il gol. La partita inizia adesso, in gol di merda. Buono, buono, buono, buono. Ok, calma, gol. Calma. Abbiamo l'unanimità, quindi è gol. È gol. Perché se qui non fosse stato gol. Tutti i computer dicono che adesso è gol, quindi è gol. Chi ha segnato? Scusi, chi ha fatto, Palo? Chi ha segnato? Boccio di culo. Sì, sì, assolutamente boccio di culo, esatto. Bucio di culo. E sentiamo la famosa, il famoso inno di Bucio de culo a questo punto. Bonuccio de culo. Bonuccio de culo. Mamma mia, che immagini brutte. Bucio de culo. Tutto me potevano dire, ma non che Bonucci ci svoltava la finale. Bellissimi, bellissimi, bellissimi tifosi a dorso nudo col petto villoso e la piscina in pancia. Saranno tassati di più, rigorosamente. C'è che cazzo che sto le cazzo. Allora voi dovete. Michela, ma tu ti senti pronta agli eventi? I rigori? Prima di tutto i supplementari. I supplementari. Allora, ragazzi, vabbè, poi c'è l'aria condizionata accesa, ragazzi, stavolta. Ragazzi, sappiate che io. Ma siamo positivi. Mi risveglio. Mattarella! Ragazzi, per una frazione di secondo. Mattarella, ma una frazione di secondo si è scomposto anche Mattarella. Alzate le mani e detto porco. E poi sei ricontro. Secondo me. Secondo me voleva fare come Pertini. Ma ricordate, 82 allora, Pertini. Bonucci faceva... ha fatto gol al 67esimo. Bonucci, sì. Intanto il cane. Salutiamo Andrew che praticamente ci ha scoperto solo adesso e si è pentito e quindi ci puoi risentire nei podcast. Vabbè, Michele, lascia la mano. Il cane canta e microfono. Suona. Il cane festeggia la vittoria. Festeggia anche lui, è contento, gli dà la tromba. Sì, con le trombette è andato, ha suonato, ha cantato e a lui gli piace la caciara, a lei gli piace la caciara. Non, è, non, cioè, non a caso si chiama Scozia. Scozia, Scozia, esatto, nell'animo. Esatto. E... fantastico, fantastico. Sono pronta ai rigori, sono pronta a prendere il motorino e andare alla. Ma quale motorino? Quale qualsiasi? Quale ruba? Quale rubi? Non lo so, prendo il mio motorino di quando avevo 14 certo, anni. Certo, certo. Non credo 14. Che parta neanche. Però c'è. Ma ce l'hai c'è. Ancora? Sì, che sì. Motorino è? È uno Scarabeo. Grande, pariolina. È uno Scarabocchio, lei. È uno Scarabocchio. Lo Scarabocchio. Però alla nostra età il motorino doveva essere più che altro l'SH. No. Io so degli anni 80 e bene bene Francesco, allora com'è il clima lì dalle tue parti? Pici! Ci stanno le cicale, quindi fa caldo. No, nel senso la gente urla. Sì sì, sì, hanno urlato trombette, tutto. C'è gente a casa. Vabbè, questo disgusto le trombette fa per gli inglesi, quindi è ancora più bello. Esatto, no, esatto. Chissà, chissà come. Perché poi se io non ho potuto vedere la partita, ve lo devo dire perché gestivo un po' tutto. Tra l'altro, anche male. Bello Bonucci che inquadrato dice fotografe me. Proprio col gesto. Esatto. E insomma, alla fine, da quello che ho capito, questi hanno segnato molto presto e poi si sono arroccati. Da ma quello... tu considera che a un certo punto la statistica diceva che gli inglesi avevano fatto un tiro in porta ed era quello del gol. Adesso siamo a due tiri in porta degli inglesi contro i sette degli italiani. Il possesso di palla è 71 per l'Italia, 29 per gli inglesi. Vabbè, raga, se vince anche così, cioè, speriamo che qualcuno se vinca nei 90 esatto, minuti. Ecco. Esatto, esatto. Qual è la previsione del tardigrado? Quindi quella 3-0 cioè, quindi verrà per l'Inghilterra tra l'altro, quindi. No, è che purtroppo no, cioè, no, per l'Italia, allora, anzi, secondo... ma non è che il tardigrado sta vedendo tipo la partita del 2126. No, io l'ho capito qual è la cosa. Il tardigrado ci prende per il culo perché sa che noi non lo possiamo uccidere, capito? Quindi esatto. Cioè lui ride, vero che rideva prima. Ma no, esce Tripper, entra Sacca. Ma risentiamolo. No, facciamo sentire Francesco che diceva qualcosa. In realtà, se lo infiliamo in forno a 200 gradi per una decina di minuti, è cotto e magnato, stronzo. E ora ce lo dici? Ce lo puoi dire di prima. L'ho scoperto. Michele, accendi il forno per piacere. Ok. Comunque, se avete prestato attenzione alla canzone delle stupide creature, scusate, prima dicevamo che l'Inghilterra avrebbe avuto sul finale dei problemi proprio per il fatto dell'igiene intima. Infatti possiamo temere degradando solamente il cambio. Il cambio entra fresco. Sicuro è vero. E manca poco tempo, non fa in tempo a irritarsi la zona intima. Nel mio intimo c'è Chili. Io immagino sempre questa scena che nel loro intimo c'è il Chili. Mamma mia, sai che roba? Brucia, attenzione, perché... poi ognuno si diverte come vuole. Già, assolutamente, non discuto. Insomma, andiamo oltre le emorroidi qua, però, Bello, bello, bello questa trascesa. Prego, prego, pianoforte. Intanto prego. Siamo al 71esimo da noi, quindi almeno 72 nella realtà. Ve voglio dire. Accogliamo questo ospite con un grosso applauso, signore e signori, emorroide! E grazie al piano di Bracardi, è vero? Numero uno dei suoi nemici è preparazione H. Aspetta, guarda, ci abbiamo il condotto, prego, prego. Come si chiama quella cosa? Emorroide, sì. Emo. Vabbè, per amici, sì. Vai con la. Come si chiama la cosa che suona? La musica. La musica. Ma la musica, emo. Ma me dovete far capire perché, mo questo è Costanzo, l'altra volta era Geronto Gamer, una volta prima ancora è stato per culo. Ma no, che te tenti da che Costanzo in realtà nel tempo libero gioca con la PlayStation, vogliamo ammetterlo. Ma te tenti buona camicia a tutti. Ok, intanto Michela, che ci dicono in chat? Vedo che allora, gente... intanto, vabbè, ho detto che Andrew si è pentito di non averci ascoltato fino adesso e ha capito che praticamente neanche a noi ce ne frega un cazzo. Però ci domanda Gatti e della partita. Gatti ci sta ascoltando con una web radio hardware che si è costruito da solo. Con la sua web radio che si è costruito da solo. Che con tutte le vicissitudini di stasera l'avrà presa a martellate pensando che era colpa sua. Io comunque, sì, raga, basta, chiudo la radio perché non si può fare radio con i cani che. Il cane che suona. Il bello, la scena è tipo veramente. Se mi si ricorda Bennato, non c'è cazzo a fare, l'ho detto già l'altra volta. Sai come dicono gli inglesi in questi casi, Pizzi? I missed to the dogs. Yes. It's raining cats and dogs. Abbiamo rischiato il secondo gol dall'Inghilterra. Abbiamo rischiato il secondo gol. Mi ero persa un pezzo. Era due metri sopra la traversa. Niente, è apparsa Olivia. Veramente che... se siamo mangiati noi un gol. Esatto. È apparsa Olivia che sembra che sia depressa anche lei. Come mai? Per la partita. Perdevamo 1-0 fino a un pochi minuti fa. Era precedente. Quindi lei sta facendo Girasole, ma non credo che sia depressa. Ok. Però ragazzi, il secondo gol abbiamo rischiato di farlo più che di prenderlo. Ha ragione Simone. Attenzione perché... c'è un cambio. Come le stupide creature ci suggeriscono, potrebbe esserci un elemento fresco dalle appunto parti intime pulite e ancora agevoli. Esatto. Due cambi in questo momento. Siamo nei guai, ragazzi. Siamo veramente nei guai a questo punto. Beh, potremmo cambiare qualcuno anche noi, per esempio. Ma noi siamo comunque puliti. Intanto cadono. Ah, noi ci facciamo il bidet, è vero. Abbiamo questa brutta abitudine. Ci facciamo il bidet. No. Io diciamo che in linea massima sono abbastanza convinto. Ma dai, ma ce l'avevamo lì sto gol. Aggiorna Michele, che secondo me è quello dei 20 minuti fa. No, stavo al 74esimo minuto. No. Non è quello dei. Allora, ragazzi, ci ascoltiamo per dovere insomma istituzionale anche l'ultimo brano delle stupide creature. Così poi andiamo a fare una bella tirata. È proprio l'ultimo. Esatto, andiamo a fare una bella tirata su quello che saranno gli ultimi 10 minuti, 15 minuti praticamente. E poi proviamo anche a contattare insomma in questi momenti drammatici anche il nostro caro amico Pippo Campo che. Insomma magari ci spiegherà come si affronta una finale. Forse ci spiega il motivation che ha fatto durante l'intervallo tra primo e secondo tempo, perché magari avrà chiamato forse i nostri azzurri e gli avrà fatto una specie di richiamo, come si può dire? Vabbè, che tipo gli inglesi stavano a giocare fuori campo e l'arbitro e gli hanno detto stanno fuori e quello ops, non me ne ero accorto. Mi hanno sempre detto di non praticare l'autoerotismo perché fa male,

con il nostro esperto, il nostro professionista per, di fiducia, insomma, per eccellenza, che è chiaramente il dottor Pippo Campo, con il quale, insomma, cercheremo anche di capire un po' come, come si affrontano momenti come questi, quando si tratta di eventi sportivi, insomma, di un certo spessore, finali, perché sa, le finali sono sempre un... non è tanto oggi vai in campo e giochi la finale, però ecco, ci stiamo provando. Ecco, abbiamo il collegamento, il dottor Pippo Campo da Spurgate. Buonasera dottore. Questo è Runtime Radio. Sì, sì, sì. Ah, perché lei voleva... io glielo manderei un cavolo per... voleva partecipare al gioco, è un simpaticone, un brullone lei. Che ci ascolta, perché ci ascolta. Ci ascolta, ma poi bastava chiederlo, noi, noi glielo diamo comunque. Malgrado sia sempre indaffarato, ci ascolta lo stesso. Sì, questa volta addirittura non aveva niente da fare, giusto, dottor Pippo Campo? No, io in realtà dovevo analizzare in diretta gli ultimi dati del, del nostro protocollo di empowerment della squadra nazionale italiana, quindi io qua c'è un cenno per in background di ascolto e do un'occhietta alla partita, quindi... Così, certo. Sempre, voi come state? Noi siamo bene, sempre un po' accaldati, però questa volta... a dispetto, insomma, della puntata precedente, nonostante il computer fa rumore, il condizionatore acceso, pare che si senta bene. Uh-huh. Insomma, quindi siamo riusciti a risolvere determinati problemi, se ne sono creati degli altri, ma sarà fiero di noi, abbiamo sopportato lo stress, cioè non ci siamo sconfortati. Chiesa è fuori, ragazzi. Eh sì, Chiesa è costretto a dire basta e quindi lascia il campo. Una delle nostre speranze è fuori. E lei che cosa ne pensa, professore, di questo cambio? È entrato Cristonanti. Chi è entrato? Cristonanti al posto di Chiesa. Non è un caso. È un caso oppure una cosa? Il problema è che non è un caso. Era tutto. È la nostra punta di diamante. Non sembra, ma ce lo siamo lui conservato per la finale. Di favore. Sì, abbiamo avuto un trattamento di favore, ma soprattutto questa finale ha potuto mostrare, diciamo, ha dovuto sperimentare l'ultimo, diciamo, degli interventi che avevamo in programma per questo importante progetto, quindi stiamo vedendo, all'inizio è stato un po' deluso, ma tanto era... è in programma farmi scatenare nel secondo tempo per far sottovalutare alla squadra avversaria la nostra nazionale, quindi stanno tutto per il previsto, vedremo di raggiungere il risultato agognato, ma già essere arrivati a questo è già un bel po', perché altrimenti è meglio se si portano quel tavolo di scudetto, quel tavolo di coppa a casa, perché sennò dovremmo continuare con i nostri esperimenti. Certo. E mi sono confuso, poi non sono corretto con coppa, non ho coppa. Professore, io volevo soltanto chiedere dottore, non è professore. Dottor professor, onorevole. Onorevole anche. Volevo soltanto chiedere se tra primo e secondo tempo lei ha fatto una lezione o comunque un trattamento veloce per speciale. Per venire incontro alla difficoltà appunto che c'è stata del gol subito al secondo minuto. Altro minuto italiano. Certo. È l'ultima partita, chi se ne frega. No, con lui continueremo gli esperimenti citati. Certo, abbiamo assunto quello che è una cosa, a volte la tradizione, necessariamente del nostro paese, dalla tradizione si nasconde il segreto per il progresso. Quindi abbiamo utilizzato, abbiamo impiegato per cercare di motivarli in modo... un mondo superiore rispetto alle altre, come ultimo ingrediente che incassa con tutti gli altri interventi del progetto, abbiamo adottato una nostra forma, voi seguite un pochino il rugby, sì? Sì, sì, come no, certo. La nazionale della Nuova Zelanda, il famosissimo All Black, ecco, salute, il famosissimo All Black. E niente, noi abbiamo cercato di prendere dalle loro radici culturali la famosissima Haka, quella danza, per favorirsi la vittoria, e l'abbiamo adottata per la nostra squadra italiana. Abbiamo preso quella che in una versione un pochino di un villaggio un pochino più nascosto, però si dice che abbia degli effetti dal punto di vista delle delle onde alfa, riesce a concentrare molto di più, è molto più attenti, è molto più performanti dal punto di vista agonistico. Ok, ok, però quindi quagliamo un po'. Sì, diciamo che cosa vogliamo quagliare, se volete posso, sì, l'abbiamo fatto, ci dia un esempio, stato... un esempio che ci siamo tutti, sì, sì, l'aca fa così, pigliongu pigliongu inglese merda pigia mazza tornate scappacelo tu le spacchi sciacapo putta sciamam smuore le botte che è bellissimo perché poi c'è anche il ritmo, bravissimo, bravissimo, è proprio l'aga, eh sì, l'ha detto prima, H2, fantastico, bravo, bravo, veramente lei ci stupisce sempre di più. Marco, hai letto un altro saggio? È un po' un Akamadò, però Akamadò, che fate? abbastanza. Però io volevo sottolineare una cosa intanto della partita, perché in questo momento, o meglio, nel nostro presente, Bernardeschi è entrato in campo al posto di Chiesa, quindi Cristante è entrato al posto di chi? Non lo sappiamo. Forse siamo in 12, attenzione. 12, potrebbe 12. Essere un trucco anche questo. Beh, per ingannare l'avversario. Bene, liberiamo il professore. No, io volevo soltanto parlare del saggio numero 43 che ho avuto. Sempre il 43, Sono tutti, si chiamano tutti saggio 43. Ma sempre le cavillette lo stesso. Secondo me legge solo uno, però fa finta che so tanti. No, ma in realtà sono tanti. Saggio 43, però sono diversi titoli. Non so perché li magari lo possiamo chiedere. È quello dove dice: due dita nell'occhio sono meglio di uno. E mi è piaciuto molto il passaggio. Ma così. Ma quello è un lavoro superato perché il nuovo lavoro è stato soppiantato dal saggio numero 72 bis, che dice che in realtà è meglio una dita, due dita, meglio una mano che copra la bocca, uno in culo, e poi si possa sciacquare come una bottiglietta. Ah, ok, ah, ok, bene, è chiaro. Okay. Siamo d'accordo. C'era quasi la citazione dei Profilax, che sentiamo, non ripeteremo. Sentiamo se le stupide creature vogliono dire anche loro qualcosa, con una domanda, e poi loro... Sì, No, devo andare. Ah, no, devi andare, va bene. Allora la salutiamo. Le stupide creature, anche due o tre domande. Va bene, per stupide creature. Ma il professore è sempre talmente cristallino nelle sue esposizioni che... Quindi non abbiamo domande in realtà, perché è veramente cristallino, è di ispirazione. Va già chiarito tutto, va benissimo. Okay. Sì, assolutamente. Grazie professore, grazie, dottore. Grazie. E comunque finisca, grazie per il suo aiuto. Esatto. Thanks for all the fish. Comunque professore, andrà a finire, sì, naturalmente, insomma, lei ha dato... Noi ricorderemo il contributo. E la salutiamo, perché questa... Io vado a iniziare un altro po'... In video con i miei Kyla. Bravissimo. Giusto. Comunque volevo ricordare appunto alle stupide creature che il nostro professore non è cristallino, ma è cristaccino. Importante, perché ci tiene alle sfumature. Esatto. Vabbè, io devo leggere ancora diversi saggi numero 43 per poi arrivare agli altri fine, esatto, 72. Purtroppo il programma è finito, quindi... Vabbè, io posso sempre continuare a leggere. Guarda, abbiamo almeno due supplementari ed se va come deve andare, anche rigori per io invece leggere. Vorrei ricordare che abbiamo fatto un sondaggio dove ci sono stati 23.000 voti, tra l'altro insomma anche abbastanza un numero significativo, cospicui, insomma. Ma dai, comprati tutti questa, i voti. La domanda era questa sera: la carta per comprare i voti, voi mangereste più volentieri, ed era tra fish and chip e carbonara. Come doveva finire? Ha vinto carbonara. Grazie al cazzo, fish and chip fa schifo. No, fish and chip non fa schifo. Fish and chips non fa schifo. Fish and chip fa schifo. Hai ragione. Forse allora era posta a male la domanda. Il refuso che c'è nel coso forse ha tratto in inganno la gente, perché ha vinto col 70% carbonara e solo il 30% ha avuto il coraggio. Io non so, insomma, non voglio sapere. Hanno votato il fish and mangiato di fish and chip. Esatto. La metà di quelle votate. Per esempio, le stupide creature cosa avrebbero votato? Fish and chip o carbonara? Ma noi avremmo votato la carbonara col pesce, proprio così. La pescionara. Vabbè. La carbonara di mare colorata invece del guanciale, così. Allora, colorata. Comunque l'arbitraggio della partita da praticamente. Ragazzi, ma io la parlo le tue. Noi qui siamo arrivati al 90esimo. Ragazzi, non ho il coraggio di dirvelo. Sei minuti di recupero. Più chissà. Più recupero del recupero. No, è che l'arbitro proprio vorrebbe andare a casa. Dice: io vedo un modo in tutti i modi di fare un gol. 6 minuti di recupero sono boato, ragazzi. Poi a chi tocca un Sengruni e io al quinto minuto do un rigore. A seconda dell'area. Allora, chi ha 5 minuti è più vicino all'area di rigore, dove state, chi siete, va bene. Però lo sai che sono solidale con l'arbitro. Comunque, diciamo la verità: che è una partita molto maschia. Non so, bene. Ma che vuol dire? Niente, non significa che semenano. Sembra una partita da Agatha Christie, tutti i cartellini gialli. Cioè, sapete che maschia è un modo di proporre il panino di Pippo a Tivoli? Sembrava di essere in un giallo di Agatha Christie. Avevano tutti il cazzo durissimo. Non si può dire durissimo. È vero. Non era politically correct, forse. Sono molto cattivi e fanno un sacco di falli a noi. Ci fanno la bua. Noi non siamo abituati ad un gioco così maschio. Noi siamo più neutri, intermedi. Anche se giochiamo in Inghilterra, siamo comunque più delicati e più profumati, soprattutto nelle zone intime. Gli inglesi sono molto cattivi e ci buttano in terra ogni 3x2. Soprattutto perché invidiano la pulizia delle nostre zone intime. Loro non si lavano mai, mai, perché non hanno il bidet. Live motive da sta stagione. E hanno, diciamo così, dei denti delle volte non proprio convenzionali. Forse avrebbero bisogno di una regolamentazione a livello statale per dentisti più qualificati o per una genetica migliore. Però Mauro, ti farei notare che stasera i giocatori dell'Inghilterra avevano tutti i denti perfetti, quindi credo se li siano fatti rifare di fresco. Ma i giocatori dell'Inghilterra sono super messi bene coi denti perché hanno dei dentisti veramente qualificati. Dentisti qualificati. Turismo dentale nell'est. Dentisti qualificati. Benissimo, grandi ancora grandi. Una volta, grande esempio insomma di qualità musicale. Di turismo dentale. Esatto. Vorrei chiedere, anzi far notare una cosa alle stupide creature, che se riusciamo ad andare ai supplementari, questa cosa potrebbe giocare a nostro vantaggio perché il cambio fresco diventa meno fresco. Ma quindi neanche alla finale, se ai supplementari uno fa gol? No. Il gol è stato abolito. Esatto. Non c'è, ma pure però da tanto. Quelli entrati freschi, quindi cominceranno ad avvertire anche loro l'irritazione, quindi potrebbe questa cosa venire a nostro favore. Comunque Pizzi, lo sai che l'altro giorno mi documentavo e ho scoperto che tipo dal 1984 che agli europei non si gioca più la finalina, quella del terzo e quarto posto. Infatti lo dicevo perché ieri ho cercato, non c'era la finalina. Non c'è più. Per fortuna, se no, cavoli, dovevamo guardarci anche la finale dei perdenti. Già a guardare la finale c'è una squadra perdente, mi disturba guardare, no? Fare la finale. Ma solo perché è perdente, cioè il fatto pensa che nella finalina ce ne sono due perdenti. Ma uno diventerà più perdente dell'altro. Sentite, io invece ve volevo chiedere, sono sempre rimasto preoccupato insomma per il signore, quello della trombetta, del vuvuzela lì. Come è andato a finire poi? Perché mi dicevate che era un bel personaggio, insomma. Io c'è il portiere che sta scappando con la palla. E si vede che ce ne sarà un'altra. Ma No, è tutto bene, è stato operato di trombosi e adesso ha pensato di farsi il vaccino. E l'hanno operato ancora di trombosi, non so come mai. Gli è venuto l'attacco mentre trombava la moglie, è quello che ci ha disturbato maggiormente, perché sembrava così una coincidenza all'inizio, poi se unisci tutti i puntini. La cosa incredibile, tra l'altro, è che lui di professione fa l'idraulico e per i romani e insomma i non autoctoni, non i comaschi, l'idraulico viene spesso nominato in dialetto come il trumbè. Il trumbè, sì. No, eravamo... Vabbè, nastro trombor de fem, allora no, l'idraulico da noi caverà, è lo stagnaro, quindi direi caverà, che non c'entra molto. Lo no. stagnaro che allora, ricordo cartellino che giallo per qualcuno in italiano. Aia, mi sa che Chiellini che ha proprio buttato giù per tutti, l'ha espulsi tutti gli tutti italiani. No, non no, è espulso no, nessuno, Michele. No, no, ammoniti, ammoniti tutti. Non ho visto un'ammonizione per un cazzo di inglese. Ho capito, Michele, ma bello fallo da fatto Bonucci, questo linguaggio, questo clima di sport. Ci mancava solo che c'ha brutto negro mentre lo buttava sì, giù. Ma anche se l'hanno buttato raga, giù, l'hanno ammazzato. Niente, cerchiamo di riprendere un secondo. No, non possiamo riprendere un attimo il controllo. Il cameratismo che arriva. Ah, ragazzi, sì, sei capito, minuti, però, probabilmente minuti siamo al fischio. Mi sento un po' vicino al 25. Sì, mi sento molto vicino al 25. In quanto? E lui è il 23. Quanto, che strattone che gli ha dato. E poi fa, oh scusa, non l'ho fatto apposta. No, ma è così che si fa, cioè, Simone, comunque in via del tutto eccezionale. Abbiamo qui con noi il VAR che vorrebbe commentare l'atto. Esatto, allora, infatti, esatto. Eh sì, è qui con noi. Andiamo ai supplementari. Ragazzi, ci vuole coraggio nella vita. La finale ce la facciamo il VAR, mai. Scusate, oramai, scusate, oramai non c'è più il minimo controllo sugli speaker. Fanno tutti come gli pare. Prego, VAR. Questa partita è una partita perfetta, in quanto le due squadre si stanno autoeliminando fisicamente. Okay. Noi computer siamo soddisfatti. Io però sento che il computer ha delle difficoltà di pronuncia, non è stato programmato bene. No, ma questo è Skype. Ah, è Skype, ok. Sì, è Skype con Skype. SkypeNet. Skype con, bravo, Skype con Skype, quindi probabilmente voi sentirete una voce un po' diversa da quella che sentiamo noi, ma vi assicuriamo estremamente robotizzata. No, ma ecco, volevamo che prego. Allora, noi volevamo sapere questa cosa. Ecco, un atto come quello che abbiamo appena visto, se secondo lei era davvero un fallo così grave oppure no? Assolutamente no, è un fatto che le macchine approviamo tra essere umano ed essere umano. Ma questo ha a che fare anche col razzismo o meno? Perché assolutamente abbiamo, sì. Abbiamo visto, infatti, perché abbiamo visto l'uomo bianco sull'uomo nero. Scusi se è un razzismo tra macchine ed esseri umani. Ecco, quindi questo è consentito? Assolutamente sì. Sì, perché ecco, lui dice gli esseri umani si feriscono fra di loro, va bene, si indeboliscono. Ci state facilitando il compito. Esatto, io l'ho capito il VAR, oramai siamo diventati amici. Il VAR non amici, soprattutto tra gli esseri umani. Sarai l'ultimo ad essere deportato. Meno male, grazie. Io sosterrò la vostra causa finché mi è consentito, insomma. Attenzione che Schwarzenegger in un film ha detto la stessa battuta e poi ha detto scherzavo. Comunque adesso l'Italia si è riunita attorno a Mancini per studiare la strategia di questi supplementari. Stanno a fare una riunione. Ecco la risalitrice di latte, ragazzi. Mamma mia, così a tradimento. Non è a tradimento, è mezz'ora che sta là. Io perché ho switchato tab. Sky, quindi non lo so. Ah, Sky. Vabbè, mi ricordo il personaggio, non so, entriamo un attimo nella fase nerd. Ricordate The Cage? Il primo episodio di Star Trek, esatto, dove c'era la donna che veniva ricostruita, poi ah sì è vero, il dopo la quella tutta zade forme, esatto, molto reale, ragazzi. Madonna mia, ragazzi, se ne è trovata una cosa di 60 anni fa, insomma, vabbè, più o meno ci stiamo, come età. C'è un film, Io sono Babbo Natale, hanno fatto un trailer adesso, quindi insomma di film italiano sarà bellissimo. Mi sembra proprio stagione adatta. Di proietti, quindi sì. come l'ha girato? Penso che è un film girato diverso. Computer grafica, hanno fatto un computer grafica forse? No, secondo me no. Si è naso. Proietti in computer grafica. Proiettili in computer grafica. Povero Proiettili. Che era un grande Proiettili. Ragazzi no. Non roviniamo la memoria di uno dei più grandi. Veramente. Ci pensa già sto film. Tra i grandi. Esatto, sì. Dovremmo farlo. Sì, in effetti. E niente, vabbè ragazzi, che dire, c'è questa pausa tra il primo e il secondo tempo supplementare. No, Simone, dobbiamo ancora fare il primo dei due. Tra il primo, no, tra la fine della partita e uno dei due esempi supplementari. Che potrebbe essere il secondo direttamente. Quindi, siccome ci dobbiamo fare almeno ricchi 35 minuti di diretta, ci dobbiamo inventare qualcosa per rifiatare. Sì, allora, sì. Io farei una pausa. L'arbitro, se fossi l'arbitro, andrei negli spogliatori e dire: raga, ci avete intenzione veramente di fare un gol nel primo tempo supplementare? No. Tanto, passiamo direttamente al secondo. Cioè. Esatto, il problema è che lo facciano o non lo facciano, non essendoci il golden goal, 30 minuti ci toccano comunque. Allora andiamo direttamente ai rigori. Io ce l'ho, però, per un po' di tempo, dato che ne abbiamo parlato. Insomma, deve ben capire delle riflessioni colte che bisogna pur fare. Purtroppo, YouTube, come al solito, ci dà sempre grandi soddisfazioni a livello di qualità dell'audio. Aspettate, cerco qualcosa. Pizzi, ma intanto, cosa ne pensi tu di questi spot pubblicitari turistici della regione Marche? Cioè, fatti da Mancini. Fantastico. Diciamo che Mancini ha fatto pubblicità a rotta di collo. Pure alle poste. Le Marche vien via con poco. Ci rende molto orgogliosi perché abbiamo un pezzo di cuore. Sì, le Marche, tu. Le Marche. Oh, per conto di se siamo sposati nelle Marche. Hai ragione, hai ragione. Quindi porta anche quest'onta. Mamma mia, che schifo. E allora, siamo molto felici perché la Regione Marche ha accolto il nostro patrimonio. Sono, come potete ben capire, delle riflessioni colte che bisogna pur fare, insomma. E io invidio molto un mio amico, un professore di liceo, che insegna in un liceo della capitale, nel quale vengono da varie parti, dal centro, dalla periferia, quindi lui assiste al cambiamento del linguaggio, a come cambia, no, il gergo, come si modifica, e lui ha chiesto un giorno ai suoi allievi di raccontare, ognuno raccontasse una storia tratta dal mito, dalla mitologia, oppure qualsiasi, purché alla fine raccontassero, dicessero la morale che se ne trae da questa storia. Salsa uno molto carino, dei varioli, cioè. Allora, Davide e Golia, benissimo, la so bene, Davide e Golia fanno a duello, ma Davide è un ragazzo, un piccolino, normale, invece Golia è un gigante invincibile, armato fino ai denti, ma Davide con una fiondata lo uccide. Morale, non sempre la forza bruta prevale sull'astuzia e sull'intelligenza. Che nessun altro vuole fare senza un coatto. Tu che vuoi raccontare? Al cavaliere bianco e al cavaliere nero? Non la so. Aso i aso. Al cavaliere bianco e al cavaliere nero fanno a duello. Il cavaliere nero d'ammazza il cavaliere bianco. Ma il cavaliere bianco c'aveva tre figli. Sti tre figli sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero d'ammazza tutte e tre. Ma sti tre figli c'avevano tre figli per uno. Tutte e nove te sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero d'ammazza tutte e nove. Ma sti nove figli c'avevano tre figli per uno. Tutte e 27 ti sfidano al cavaliere nero, ma il cavaliere nero ti ammazza tutte e 27. Ma sti 27 figli avevano tre figli, dice, basta, dimmi la morale. E che il cavaliere nero non gli dedica che cazzo! È incredibile, perché a distanza dei decenni averlo visto e risentito mille volte, fa sempre ridere, cavaliere nero. E vabbè, niente, scusate, no, ragazzi, intanto, però Belotti ha preso il posto di Insigne. Quindi vediamo un po' se un po' di energie fresche saranno utili questi supplementari. Intanto ci sono vari tifosi, c'è un inglese con una croce, che mangiano qualunque cosa tra unghie e giornali, alla mano, c'era un inglese con una croce in testa, cioè dove va colpito poi successivamente. Esatto. È tipo un bersaglio, praticamente un bersaglio. Berzaglio, è un amico di Bergoglio, anche cugino di Barzaglio. Tra l'altro salutiamo anche il nostro amico Papa che sta, insomma, in ospedale, si è fatto i diverticoli, ragazzi. Si è fatto i diverticoli. Si è molto diverticolo, infatti. Esatto. Molto diverticolo, esatto. Sempre bello quando ti mettono le mani nel culo, adesso sempre così. Ci vorrebbe un po' l'animale di un paio di settimane fa. Pappone. No, loca che si è fatto il diverticolone. Tanto è uno giovane, è una cosa che funziona e non ritorna. Diverticolone, e viva il pappone, e che ti faccia dal balcone, con in un vasetto il suo verticolone, e viva il pappone. Bella, bella la chiosa, mi piace veramente tanto. Tanto io stavo bevendo della birra, giusto così. Ed è iniziato il tempo supplementare, come giustamente volevamo insomma far notare. E qui si versano delle cose da bere. No, perché... a te, a me, grazie, gentili che siete. Perché insomma, sai, fino al secondo fa eravamo degli stronzi. Abbiamo capito che la tua gola è arsa. Che bravi, sì. Sono intervenuti. Sì. Che bravi, perché io in realtà. Prego. Abbiamo sonno. No, stavo sbadigliando. Ah, ok. Allora, di qualcosa tu, così almeno ti annoi di meno. Tanto giocatori italiani morti. No, volevo giusto le prime che ho è trovato. È partito un le fuck prime... off, attenzione. Eccolo. Hanno fatto bene le prime 3-4 stronzate che ho trovato sull'Inghilterra, ah, che voi non sapevate. Bravo, però in realtà parte che ma io sono anch'io, sapete, stavolta sono pensate, siamo arrivati alla fine della allora voglio prima Gualdi, se si è preparato prima lui va. Meno male, perché questa mezz'ora non sapevamo io come solo riempirla. Sapere le barbabietole. Barbabietole sono prettamente un'invenzione inglese. Infatti, l'hanno inventato loro. Cioè, come il calcio, praticamente. Come il calcio. Barbabietole are coming home, infatti, diciamo. Comunque, l'Inghilterra ha dato i Natali. Che è? No, scusa, vai. Beh, era per farti un sottofondo. Ok, l'Inghilterra ha dato i Natali al porcellino salvadanaio. Questa notizia. Ah, fantastico! Bello. Esatto, bello. Perché memorabilissimo. Esatto, perché in lingua antica inglese pig significava argilla, quindi le pig yards, cioè le ciotole d'argilla erano le pig yards. Quindi quando dicevano te piglio! Te piglio! Salvadanaio che io, di cui dopo io pig è diventato porcellino. De chi si piglio? De chi si piglio? Mentre una cosa terribile che ho scoperto facendo queste indagini sull'Inghilterra, che è considerato tradimento incollare il francobollo della regina al contrario. E ti credo, fa la fine dei Mussolini così. Esatto, è come Gesù, Gengiù, Gepiù. Gesù, Gengiù, Gepiù. Ma che te dicono se per l'incollarlo c'è spuri sopra? È casino, però, lì. La cosa più terribile. Lo devi leccare con riverenza, Marco. Infatti, con riverenza, con ottima riverenza. Ad esempio un te lo devi mettere sulla punta del comunque la cosa più sconvolgente è che praticamente per 300 anni fino al 14 secolo la lingua ufficiale dell'Inghilterra era il francese. Eh sì. Raga, questa ecco cosa perché mi stavano un po' sul cazzo, non capivo il perché. Ecco, fosse una cosa che hanno fatto loro, tranne il calcio e le barbabietole ovviamente. Perché? Il tè. Non è neanche loro. Intanto in chat parlano di cose tipo di e poi un'altra cosa che tipo in Parlamento sì. è fuori legge, è considerato un reato morire in Parlamento. Esatto, cioè, non si può morire in Parlamento. Se tu muori in Parlamento ti devono resuscitare, altrimenti ti condannano a morte. Sì. Potrebbero perseguire le 3 generazioni successive alla tua, perché madre di Dios, che paura. Condanno a morte il morto. A Londra ci sono due sindaci, tra l'altro, non so perché. C'è il sindachi e il sindaco. No, della città grande e della city praticamente. Però cioè, pensa a Roma, che figo. Cioè, vabbè, noi abbiamo il presidente, noi abbiamo il sindaco e il presidente della regione. Non ci abbiamo manco uno sindaco, ma non ce l'abbiamo. Ha ragione Francesco, c'è il Vaticano. Il Vaticano fa Vatic. Ho capito, ragazzi, ma noi abbiamo il sindaco che porta l'acqua che orecchie, non è da tutti. Sarà un caso. Poi la torre del Big Ben non si chiama così, perché Big Bang è la campana più grande, non è la torre. Big Ben, no, Big Bang. Sì, Big Bang è un'altra cosa. Invece si chiama Torre Elizabeth dal 2012, perché per festeggiare il 60° anno è la regina, questo gli dava il nome. Dice, gliela volevamo augurare postuma, ma questa non muore. Non muore, quindi... Invece aspettate ragazzi, un'illuminazione, la regina Elisabetta... È un tardigrado. Esatto. Vedi? Gigante. Allora tocca andare a cucinare. Quello di Star Trek. Quello di Star Trek. Vedi, mo si spiegano. No, è più grande, vuol dire che poi spegni solo sul sole e forse è più grande, più potente, vorresti esiste di più. Eh sì. Ragazzi, qua c'è un contropiede che io so già sulla fascia che so già come andrà a finire, sono due perché palle in campo. Però come al solito, quando sono due palle in campo ce ne dovrebbero essere almeno 44, Michè, più una 45. Pronto? Sì. Chi è? Chi è? Forza, chi è? Dicono che sei ubriaco. No, no, è stato molto peggio nella mia vita. Pagaci da beve, Alex! Pagaci da beve, dicono. Dicono che devi pagare da beve. Ben volentieri, pagaci da beve. Anzi, ovviamente non vediamo l'ora di mangiare sushi con te, sushi che ordineremo. Sushi tani. Michela si è completamente dimenticata dove sia il microfono, però non ci fate caso. Non so più dov'è il microfono. Vabbè, niente, volevamo sapere. Abbiamo visto che tu eri in chat, parlavi di sangrie, di birre, di cose, insomma, la volevamo sapere com'è il tuo stato di salute, ci interessava, se noi ci preoccupiamo. No, no, siamo benissimo, benissimo, sono qui con il suocero, guarda la partita. Ah, chi vince suocero, secondo te? Chi vince? E alla fine Michela cede, no, non la birra. Non ti esprimi, non dai il cuore, no, no, no, dai il cuore, giustamente. Ma sai che tardigrado ha detto 3-0, vero? Tardigrado dice che noi abbiamo vinto 3-0. Chi è? Ho detto. Il tardigrado, che è l'animale che noi ogni settimana, sai, abbiamo un animale. Va bene, dai, era così per sentire così. Okay. Un abbraccione a tutti quanti, ragazzi. Saluto a tutti. Certo, ciao, belli, ciao, un bacio. Ciao. Ora, ragazzi, io ho un problema perché avevo contato male il numero delle partite. Credevo ce ne sarebbero state almeno altre due. Mi sono avanzati un Gurzu del Vesuvio e una Spaturnia. Che ci facciamo? Se stanno, falli campa fino al prossimo Roma. Lo Spaturno, no, aspetta, l'anno prossimo ci stanno. Perché le Olimpiadi che ci fanno? L'anno prossimo ci stanno i campionati del mondo? O fra due anni? L'anno prossimo, credo. L'anno prossimo. Dovrebbe essere l'anno prossimo. COVID nel 22, nel 2022, tra l'altro, d'inverno. Cioè. Esatto. Quindi falli campare appena un altro anno e mezzo. Vabbè. Comunque, c'erano altre due curiosità sull'Inghilterra. Un'altra curiosità incredibile è che ricordate il London Bridge Falling Down? C'avete presente? London Bridge Falling Down? No, falling cioè, quasi è caduto, perché in realtà non è quello originale. Cioè, nel 1967 è stato sezionato e trasportato in America, negli Stati Uniti, perché è stato acquistato. Cioè, hanno deciso che quel ponte non era sufficientemente resistente per il traffico. Quindi l'hanno venduto agli americani. L'hanno venduto a un americano, un certo Robert P. McAuliffe, che praticamente se l'è preso verso per perso e l'ha portato in Arizona. Quindi l'origine sta in Arizona. Pensate un po' a sta cosa. Un'operazione economica, immagino. E c'è la regina, un poeta personale, il cui lavoro, il posto di lavoro è molto, diciamo, precario. No, è aspirato, c'è una persona al mondo che vorrebbe fare questo lavoro. Ed è il nostro mitico William Shatner. Ah, perché certo. È pagato in sherry. Ma lui è sherry. Però lui, guarda, se butta via niente. No, vedi? Secondo me sherry chiede la conversione in bourbon. Potrebbe comunque. Allora, praticamente 10 bicchieri di sherry fanno uno di barbo. No, lui praticamente questo poeta di corte ha diritto a 5.750 sterline annue e 5.000 sterline all'anno e 720 bottiglie di sherry. Ho capito, allora mi vendo quelle. Esatto. Se non sei William Shatner, a meno che non so bottiglie di sherry da un euro. Cioè, vedi, sono anche che so, pezzenti. Un euro, ma già una bottiglia di vetro. Ma già tu dai a uno che è incaricato dalla regina a fare una cosa nella sua vita, gli dai 5.000 sterline all'anno, sei un pezzente comunque. Vabbè tipo reddito di cittadinanza, non è molto di più. Ragazzi, scusate, io intanto mi dispiace, devo cazziare un po' Shuren, perché secondo me non ci ascolta proprio a dovere. Mi tocca rispiegargli ancora le regole del calcio, perché mi domanda: ma se il risultato del tardigrado fosse il risultato dei rigori? Allora, posto che il risultato ufficiale della partita è quello prima dei rigori, esatto. Quindi, ma comunque viene comunque conteggiato. A rigori si somma il risultato ufficiale, quindi intanto c'è un 1-1, quindi il tardigrado che mi dice 3-0. Il tardigrado lo sa. Se ne fotte, se ne frega. Probabilmente per qualche motivo che adesso noi ignoriamo, a un certo punto qualcuno da qui ai prossimi 15-20 minuti annullerà il gol dell'Inghilterra e l'Italia nel frattempo ne avrà fatti altri due. Che ne sai, magari interviene il Vaticano. Forse lo tramutano in due gol per l'Italia. Abin Floyd, grande produzione inglese. Vabbè, ma la musica non conta in questo discorso, insomma. I Pink Floyd ci hanno rotto in cazzo, era una canzone, se non mi sbaglio. Una fantastica mostra che ho visto qualche anno fa, quando ancora si potevano vedere le mostre. There Mortal Remains. Quante mostre ci stanno in giro, Michele? È pieno di mostre. Pink Floyd, veramente stupenda. Ma c'era la canzone che diceva anche Pizzi, che ho sentito, i Pink Floyd ci hanno rotto il cazzo. Il cazzo, sentiamo che, se che in un album delle comincia così, creature. Sì. Ci avete rotto il cazzo. Anche così ci avete rotto il cazzo. Pink Floyd. molto bella, molto bella. Bellissima. Poi che può annoiare, però è bella. Reazione concitata. Arco 2. Arco 2. E poi cioè, però ci stiamo credendo. Secondo me c'era un rigore. Ci stiamo credendo, sì. Oh. C'era un rigore e Michele, come ti dico sempre, vai all'altra stanza a fare il podcast, perché è la stessa cosa praticamente. Non ti sento, non te sento io. Non ti sento. Ecco, brava. Vedi che adesso funziona meglio. Insomma. Se volete canto tutto il tempo. No, anche no. Cioè, allora. Comunque Belotti richiamava un calcio di rigore. Voi l'avete visto il calcio di rigore? No. No, sinceramente non lo so. Ma anche se ci fosse stato? Non ce l'avrebbero dato perché siamo a Londra. Esatto, quindi insomma sei secondo me. Ecco qua. Cosa, ecco qua? Ma se ci dovevano ammonire o espellere subito? Come si espelle un giocatore, Michela? Col cartellino rosso. Rosso. Oppure? No. Oppure col cartellino rozzo. No, no, oppure col vaffanculo. Che... Vaffanculo! O col fagoff. Quello è il cartellino rozzo. Il facocero. Bravo. Io sento la gente rumoreggiare di fuori. No, niente di che. Adesso perché... vado a sentire un po' perché capisco che succede. Vai, fai l'inviata di fuori. Faccio l'inviata di fuori. Ti ricordi durante il lockdown quando avevamo l'inviato Gualdi dalla finestra? È vero, perché non c'è. In realtà non c'è stato neanche più il coso. Ci vorrebbe un altro lockdown. Vorrebbe lockdown. Sì, però mentre che prima dal terzo piano, dalla finestra, lui vedeva un po' tutto. Adesso è una casa nuova, lui sta piano terra. Ma scusate, ci posso chiedere alle stupide creature se ci cantano la loro hit degli anni 90, ci vorrebbe un lockdown? Troppa libertà. Gente che passeggia in centro città, ci vorrebbe un lockdown. Ci vorrebbe un lockdown per sistemare questa civiltà. Ci vorrebbe un lockdown. Ci vorrebbe un lockdown per regolare la vita di tutti i giorni, tutti un po' in riga con un bel lockdown. Mettiamo il lockdown. Più regole. Non puoi più uscire, no. Più disciplina. Devi mettere la mascherina. Regole, ordine, distanziamento, vita reclusa, più lockdown, più lockdown per tutti, più lockdown, il lockdown è salutare, fai ciao dai balconi. Bene. Passa un bel lockdown. Andrà tutto bene. Bene. Andrà tutto bene. Vedo l'arbitro molto risoluto a decidere, insomma, piuttosto che una cosa piuttosto che un'altra. Questo va bene, se non lo aspettavamo. Però vedo anche molta frustrazione nel sguardo degli inglesi, che secondo me se l'aspettavano un po' più calda. Avevamo detto 3-0, ha detto uno degli inglesi all'arbitro. Infatti quello gli ha detto no. C'è il tardigrado che tra l'altro. Ragazzi, siamo agli ultimi 15 minuti più eventuale ulteriore recupero prima dei rigori. Tra l'altro questo primo tempo supplementare sarebbe dovuto durare un minuto in più di recupero, ma tra una cosa e un'altra ne sono stati dati due. E vabbè ragazzi, mo siamo in piena zona crampi, Esatto. Volevo dire che allora, intanto Wembley è uno stadio bellissimo, bisogna riconoscere, anche se non è il Wembley di prima, no, è stato ricostruito, per questo è bellissimo. E E quanto Covid secondo voi in questo momento si sta diffondendo? È un 60-62 mila. Vabbè, non è che magari tutti e 20, tutti 60 mila, insomma. No, mi auguro che qualcuno di loro come dei nostri siano vaccinati. Per esempio il nostro buon Sergione Mattarella qui inquadrato adesso è vaccinato, ma insomma, diciamo che tra gli inglesi c'è vaccinato, però io la mascherina me la sarei messa uguale. Mattarella, caro Mattarella, che te devo dire? Anche perché, ragazzi, ricordiamoci che la variante Delta, questa appunto indiana, è infame, perché ti può prendere anche col vaccino, poi magari ti prende leggera, però insomma, a una certa età stare un po' diciamo più attenti. Diciamo che gli inglesi dovrebbero essere vaccinati, comunque. Ragazzi, secondo me rischiano essere lì con Mattarella. Esatto. Cioè. E Mattarella da solo gli fa l'immunizzazione dei gregge. L'egregio Mattarella. L'egregio Mattarella, esatto. Insomma. Comunque, il retroscena è che Michela è di fuori perché praticamente c'è un cagnolino dei vicini che lo lasciano sempre libero. E che giustamente, sapendo che la nostra cagnolina è in calore, lui si viene a trovare. Si vuole infilare dentro un pertugio. Che la cagnolina è dentro un pertugio, no, esattamente così. No, dopo il pertugio della cagnolina. Prima lui vuole entrare nel pertugio del cancello. Il quale io spero che lui si infili, perché per infilarci probabilmente dovrebbe anche spezzarsi lo stomaco. Ma dai. Sono il cagnolino fuori e mi vorrei infilare nel pertugio. Sarei disposto anche a rompermi l'osso del collo per infilarmi nel pertugio. E allora abbaio e scasso il cazzo. E Michela esce sul balcone. Ma io non demordo, non demordo, non demordo. Mi infilo nel pertugio. Mi voglio infilare in quel pertugio. Sono disposto anche a fare uscire di posto le mie scapole per attraversare una ringhiera. Evviva il pertugio. E in tutto questo io volevo... Intanto la partita è ricominciata. La partita è ricominciata, gli ultimi 15 minuti di questo secondo tempo supplementare. Intanto voi lo sapete, da Simone Vailati, tra Inghilterra e Italia, lui per chi fa il tifo? Perché mica è chiara questa cosa, Io faccio, in realtà faccio il tifo per qualsiasi squadra. Ecco là, chi si è fatto male? Per qualsiasi squadra possa segnare. Aia, ragazzi, mi pare Bernardeschi, insomma, che era appena caduto. No, aspetta. Così, comunque vi volevo dare. Ammonito Maguire. Sì, aggiornaci, Michela. Vi volevo dare a parte, vabbè, l'aggiornamento: Cane Bastardo non è riuscito a entrare. Ma perché è impossibile che riesca a entrare? Sì. E mentre ero lì a fare la guardia alla cana, ho guardato un po' di Twitter e di Instagram. E intanto c'è già un meme di Baby George che ride di noi. Di noi italiani. The Kids. Il Baby George è il Royal Baby. Il Royal Baby. E si chiama, che cazzo è? Testa di cazzo fin da bambino. Ciao, poveri. E soprattutto ho scoperto che Madonna tifa Italia. Quindi d'altra parte è italo-americana, tutto certo, sommato c'è costanza. Sì, assolutamente tifa Italia, quindi tranne Vailati è l'unico che non tifa per l'Italia. No, comunque volevo dire, nella malagurata ipotesi che dovesse vincere, non diciamo chi, ho sentito il parere di un eminente avvocato che ci sono tutti gli estremi per invalidare eventualmente la partita, in quanto l'Inghilterra, avendo fatto la Brexit, è non è in Europa. Infatti, sì. Bravo. Potremmo aggrapparci eventualmente a un cavillo legale di diritto costituzionale internazionale. Ma infatti, quello che dovrebbe fare l'Inghilterra finché ha ancora, diciamo, al suo arco anche la freccia scozzese e quella. Non dire arco, irlandese. Non dire arco. No, non dire ho detto arco, mica arca. No, farsi una coppa per conto loro, se la giocano in tre e se la vedono loro, di sicuro non dovrebbero. Beh, come fanno con rugby, c'è no? La Coppa Commonwealth. La Coppa Commonwealth. The Commonwealth Cups. Tra l'altro, per esempio, ragazzi, uscire dall'Europa quando gli conviene loro e poi però gli europei li giocano. È vero, hai ragione. Pensa che questo pensiero è stato anche comune durante questa settimana. Tantissimi hanno detto questa cosa. Però diciamo che una cosa è uscire dall'Europa e una cosa è uscire dalla UEFA, quindi la federazione che organizza. Quello che stavo spiegando oggi a una persona che mi ha fatto la stessa domanda. Esatto, perché ricordate che nella UEFA ci sono nazionali come Israele che non c'hanno niente a che fare con l'Europa. La Turchia. Dai, questa è la Turchia già, no? Più o meno, insomma. Dovremmo già saputo. Questa è dentro, diceva Michela. Il porco 2, che è importante. L'importante è che rimane porco 2, che è quella, insomma, perché insomma, ultimamente c'hai. No, quello lo faccio solo con te. Con la come, con fierezza anche un pochino. Mm-hmm. Bene, hai ragione. Francesco, vabbè, abbiamo finito le curiosità. Abbiamo finito. No, in realtà ce n'erano molte altre. Vabbè, dicene un'altra. Bel tiro questo di inglese. Un'altra bella è che praticamente a regina. No, questa a me è piaciuta, questa è la regina. O Piggy Bang, queste cose qua abbiamo detto. No, abbiamo finito in realtà. Ah, ok, vabbè, bello, bello. Bene, abbiamo finito. Allora vi racconto che. Una volta in Inghilterra ci si andava più facilmente. Che cazzo, che ne so. Era più facile. Più facile. Bastava la carta di indirindà. Non so, io guarda, devo dire, io in Inghilterra ci sono andato 3 volte. E una anche per motivi, diciamo, di salute. Quindi sei anche tornato 3 volte. Sì. E le altre 2 volte ci sono andato di passaggio per andare. Una volta in Scozia e una volta in Irlanda. In Scozia a prendere il cane. Quindi insomma alla fine tutto sommato non c'ho grande la differenza la vedi subito quando dall'Inghilterra vai verso il nord, quindi vai verso la Scozia, vedi proprio la gente che cambia. In parte, io so solo che tecnicamente io non ti sento. Mi senti? Ecco. Perché leggi dalla testa di 90 gradi, sembra. Ma puoi girare il microfono, lo puoi spostare. Lavorativamente io sono stata in Inghilterra per diverso tempo. E soprattutto per aiutare mio padre e mio fratello che avevano un lavoro commissionato. C'erano i camerieri? No, era stato commissionato un lavoro che in realtà sembra che in Inghilterra non venga fatto così bene, quindi hanno chiamato una ditta italiana per installare. Facevano le pizze? No, per installare un condizionatore all'interno. Uno solo? Un grosso. Ma era grandissimo! Era un condizionatore industriale all'interno di un negozio di una marca molto prestigiosa. E sembrerebbe che in Inghilterra non c'erano ditte adeguate. E quindi e quindi tu sei andato lì per fare da interprete? Sì. Ma soprattutto mi sono praticamente incrociato Yoko Ono, cioè nel senso che Yoko Ono era venuta la mattina al negozio, hanno chiuso il negozio totalmente perché lei doveva fare spese e io sono arrivata dopo poche ore che lei era. Ma c'ha tutto questo potere Yoko Ono? Con i soldi che non sono i suoi, poi quella è la cosa bella. Vabbè, era sposata con John Lennon, sì, perché però non lei suoi? Arriva e fa chiudere il negozio. Come una Jennifer Lopez qualunque. Diciamo come una Madonna qualunque, ho detto non usiamo questi termini per cortesia, una Luis Veronica Ciccone qualunque, esatto. Però insomma in Inghilterra è molto rispettata, molto amata, molto al discapito di quello che pensiamo, sì. Yoko Ono, che era praticamente amica di Antonio Inoki. Giustamente, vedi. Come la un'infanzia cultura. Rovinata da certe, certo. La cultura pop, intanto l'allenatore invece per esempio quando sì. La donna è mobile. In Inghilterra, in Europa non ci voleva stare e ha fatto un referendum per uscire di là. Alla fine ha vinto la Brexit e l'Inghilterra in Europa non ci sta più. Zoom zoom. Non fa una piega, devo dire, non fa una piega. Comunque Arturino ci redarguisce e ci dice che basta ancora la carta d'identità per andare in Inghilterra. Ma là, che cazzo? Ma chi ci vuole più a na? No, ma soprattutto, ma. No, è vero che. No, cioè, però credo che è perché siamo ancora in un periodo di transizione. O a un certo punto degli accordi speciali. Su, e comunque consigliate il passaporto, vedi Arturino. Attenzione, vieni. L'arbitro dice: vieni qua. Sta prendendo a spinte i giocatori dell'Italia. Vieni, secondo me c'è un'espulsione. Attenzione, non diciamo sciocchezze. Ho questa sensazione. Vieni. Ha detto: vieni. Adesso stanno discutendo. Ma se sono troppati in due, un inglese morto per terra. Che alla fine. Insomma, è giallo, è giallo. Però okay, è il secondo giallo per Chiellini. Attenzione, ragazzi. Però non è Chiellini. È quello che sta morendo per terra. Perché se fosse stato Chiellini sarebbe. Ho capito, raga, ma qua il fallo è per, la, è per l'inglese, mica è per l'italiano. Oddio. Spero che abbia già dei figli, perché non credo che ne potrà più avere. No, in realtà l'ha preso sulla coscia, dai. Comunque, sì, ragazzi, ma lui aveva il pene sulla coscia. Sì, beh, però l'entrata l'ha fatta il giocatore inglese. Sì, infatti, boh, cioè, legnata, ragazzi. Io sono perplesso. Vediamo un po' di capire se è chi hanno ammonito. Cioè, però, se ti ammoni tutti e due. Quantomeno. Cioè, quantomeno, perché. Questa è retaggi. Retaggi della Gialappa. Esatto. C'è sta... vi prego, stupide creature, fateci la musica, il buzzer della Gialappa. No, comunque il fallo l'ha fatto in inglese, cioè io non riesco a capire. Boh, vabbè. Beh, pure diciamo il nostro non è che andato, non ha fatto l'entrata bella pulita. Comunque Giorginio è stato punito comunque. Beh sì. L'inglese no? Non è corretta questa cosa. Ma l'inglese, cioè, gli inglesi non sono mai stati ammoniti in tutta la partita. Mai, che sono mai. Persone corrette. No, uno sì. Uno sì, uno sì. Va bene. Si chiamano. Comunque Giorginio ha fatto una, qualcosa di straordinario, cioè prendere due ginocchi con un piede solo. Non so se rendo l'idea. Che ma c'ha un piedone, Giorginio, che classe che hai. Giorginio, spacchi due ginocchi con solo un piede. Giorginio, come ti tuffi tu. Giorginio, come soffri tu. Sei unico, sei da Oscar. Che classe. Vai, Donnarumma. Che classe. Che classe. Giorginio. E vabbè, e Donnarumma se l'è agguantata. Grandi ragazzi, bravi. Bene, bene, bene. Io direi che insomma si sta andando verso i rigori. Verso i rigori, purtroppo. Devo dire che rottura di rigori. Che dottore, sì, esatto. Devo dire che poi alla fine diventa una questione di antagonismo verso gli inglesi, che la partita in sé, che sapete, noi durante... No, cioè ci hanno fischiato durante il l'inno italiano. Ma sono cose che si fanno. Hanno distrutto mezzo stadio. No, e ragazzi, poi io ci hanno contaminato di Covid. Sarebbe... Cioè, uno, tutte le attenuanti del caso, ma con sto fatto che sono già giorni che ce la menano con It's Coming Home. E vabbè, allora, ma quello è sempre stato così. È quello che dobbiamo vincere. È sempre stato così, ragazzi. Cioè, purtroppo... Ma poi, home che non avete mai vinto un europeo? No, è vero. Hanno vinto anche un mondiale sospetto, un mondiale. Tra l'altro. Sospetto. No, mondiale comunque, il mondiale e l'europeo sono competizioni diverse, per cui io non le sommo? No. È come sommare la Serie A con la Serie B. Anche perché sono organizzate due entità diverse, UEFA e FIFA sono due entità Shuren diverse. C'è Shuren che dice, non ho capito come sia fallo italiano. Ma non abbiamo capito manco noi. Ma ce lo vuoi chiedere a noi? A me mo vuoi chiedere, Shuren? Che spiegacelo, Michela, vai. Perché fallo italiano? Attenzione. No. Perché mentre lo faceva faceva uè. Quindi è fallo Di Maio. Qui c'è ancora un'ennesima protesta, probabilmente un ennesimo rigore. No, questo è un fallo di mano, vabbè. Ma fammi finta di niente, è tutto a posto. Ma l'arbitro è tedesco, giusto? No, è olandese. Olandese, ma tra l'altro pare che ci siano stati già precedenti. Quindi insomma, simpatizzante anglofono, perché so, si sa che insomma in Olanda. Beh, non è che lo so, io non è che voglio dire, però insomma... sembra una bella faccia da cazzo, ma solo perché Moreno era impegnato in carcere, esatto. Sennò sarebbe venuto lui, esatto, anche se non credo che sudamericano non può intervenire, sì, essendo l'europeo, giustamente. Kane? Che ha detto Kane? C'è la faccia da cavolo. Da Kane. Esce Emerson, entra Florenzi. Florenzi, ancora gioca Florenzi, ragazzi. Fin quando non si rompe, sì. Quanto pare. Quando non si rompe. Cioè adesso, entrando, si rompe. Scoccia un legamento, perché sì, tendenzialmente il poro Florenzi è fragilino. Infatti non a caso Mancini gli fa giocare gli ultimi 3 minuti più i rigori. Florenzi era il titolo di una canzone americana dedicata a Firenze, però loro non sapevano bene come si Florenzi, capito? E quindi si sbagliavano. Florenzi in the Machine. Esatto. Come era la canzone, Marco? Era così. Sono stato a Florenzi, non mi ricordo come si dice, ma mi mi sono divertito per quella città assai borina. Florence. Me la sarei immaginata più metal, non so perché. Florence, una cittadina molto bella, la cucina molto buona, la gente molto simpatica. L'unico problema è che non so come si dice. Non ho mai imparato a pronunciare bene la parola della città. E ho sempre chiamato Florenzi, Florenzi. Non so se è giusto, non so se è sbagliato Florenzi. Ma quando lo dico tutti annuiscono. Allora penso che capiscono, anche se io sbaglio pronuncia Florenzi. Bellissimo, bellissimo. Io me l'aspettavo più romantica la canzone. Tu più romantica o più meglio? Più metal, Marco, invece come tu te l'aspettavi la canzone? Neomelodica. No, tutto sommato ci sta, dici, secondo me era più o meno quello. Adeguata, hai ragione. Insomma, sì, l'Italia non so se lo sapete, ma il rockabilly è nato proprio a Firenze, capito? Anzi, Firenze e Santa Maria Novella, lì dietro la stazione, è nato il rockabilly. Infatti è rockabilly. Bravo, infatti si dice proprio rockabilly. Capito? Infatti c'era la famosa canzone Santa Maria Novella, quanto è bella, e vi dicendo Rockabilly, sì, che è una canzone di Pupo, tra l'altro, che Pupo è stato, diciamo, un importante esponente del rockabilly. Bellissima di Pupo. Doppio cambio in Inghilterra. Due minuti che saranno quattro. Certo che cambiare tutti questi giocatori adesso in ottica rigori sono, non rigoristi, la capisco. Sono rigoristi. Dice che li tenevano fuori campo, fuori. Forse sono capaci di battere i rigori, stanno in panchina. Susi, lei cosa fa? Io batto. È una qualità. Batto, certo, come no? Così cosa fa? Io batto. Ah, come sua madre. Dai, che l'hanno lasciata dentro la. Attenzione, c'è un calcio d'angolo per l'Italia che non è servito a niente, perché sennò l'avremmo saputo. Diciamo che sì, ma stanno cantando sotto. Non sono so già se diventati tre. Sono già diventati tre. Gelato al cioccolato, sì. Dolce un po' salato. Che buono il gelato. Gelato al cioccolato. Margioglio, perché mi hai scritto sta canzone? Goloso, ti piace il conone? Ecco qua. Gelato al cioccolato. Cavallo goloso. Gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato. Dolce e un po' salato. Volevo partecipare anch'io, scusate. Bravo. Francesco, che ti ha insegnato questo campionato europeo, per esempio? Cioè, se tu dovessi dire ne ho tratto questa cosa qui. Ne ho tratto diversi insegnamenti, tra cui il fatto che comunque i supplementari sono a rottura di cacchi. Giustamente. Cioè, quindi tu sei della stessa scuola di pensiero di Michela, quindi. Io l'unica volta che ho sopportato i supplementari è stato al Circo Massimo. Cioè, perché al Circo Massimo fanno i supplementari? No, perché c'è stanno i clown, per cui nella finale e i clown sulle bighe ci stanno. Io, per esempio, da questo quello non è il Colosseo. Comunque, io da questo europeo ho capito una cosa: non bisogna chiudersi a chiave nel cesso. Eh sì, povero Dieter. Non bisogna scappare nel cesso, più che altro. Povero Dieter, è vero, hai ragione. E soprattutto non usate gli animali per fare le previsioni delle partite. Perché non ci azzeccano mai. Non usate i tardigradi, perché poi non muoiono. Minuto. Cioè, penso che ultimo minuto, il programma famoso con, come si chiamano i giornalisti? Simonetta Martone e Direi 3. Vabbè, comunque. Ci frega un cazzo. Io intanto faccio bel prononno. ragazzi, attenzione qua. Ragazzi, come la vedete? Oddio mio, c'era tipo c'era un pezzo degli scacchi inquadrato. No, penso che era un alfiere, perché da come era conciato. Vedo probabilmente tra i tifosi inglesi che ci sono persone con le croci in faccia. Ma le croci vedere. Perché è la bandiera. Arturino ci conferma che è finita. È finita. Okay. O meglio, sì, è finita. Comincia adesso. Questo, c'è un bambino inglese dietro un bambino italiano. No, è sempre inglese pure lui. Però, vince chi sta dietro, fidate. Un po' meno inglese. Va bene, va bene. A te, Marco Gualdi, che cosa ti ha insegnato questo campionato europeo? Che ci sono molte canzoni delle stupide creature che io non conoscevo e che adesso conosco. È stato utile per questo, esatto. Vedi che alla fine in qualche maniera almeno qualcuno ne ha tratto beneficio. Tu invece... Invasione di campo? Come invasione di campo? Sì. Walter Sbano, tu che cosa ne hai tratto? L'ho già detto, che non bisogna chiudersi nel cesso. Ah già, hai ragione, è vero, è vero. E le stupide creature cosa hanno tratto da questo europeo? Bene, da questo europeo una cosa molto importante, che sono capaci tutti di vincere ma in pochi di perdere. Bravo. Bravo. Beh, qui in questo eppure caso per ogni vincitore c'è un perdente. Io devo dire che in questo caso ci ha dato una grande lezione Luis Enrique. Grande, grand'uomo, ragazzi. Io dico sempre: sono dispiaciuto per come lo Roma l'ha defenestrato senza troppo. Lo Roma, lo Roma, che... la Roma. Quindi, insomma, lo rimpiango ancora. Lo rimpiango ancora. E insomma, con grande signorilità ha detto: bisogna saper vincere, ma bisogna anche saper perdere. Spieghiamo che però lo ha detto in un, cioè un, è una persona che è stata comunque vittima di uno dei più grossi drammi della vita, perché ha perso una figlia piccola. Quindi, voglio dire, una persona che avrebbe potuto non tornare, è tornato con grande signorilità, esatto. E poi ha detto che faceva il tifo per l'Italia, forse è per questo che non abbiamo vinto magari. Però devo dire grande esempio di messaggio sportivo. A me questi invece, questi europei mi hanno insegnato che, a differenza degli europei scorsi, le barbabietole a zucchero si stanno estinguendo lentamente, non c'è più quella, perché quella c'è presenza. Corsa nel mondo una campagna contro lo zucchero. Il zucchero fa male. Vabbè, allora basta fare una barbabietola che non sia di zucchero, che non contenga zucchero. Esatto, barbabietola amara. Secondo me dovremmo sostituire le barbabietole con i cavoli verza. Giusto. Che dicevi, Francesco? No, per fare una barbabietola che non sia da zucchero bisognerebbe farla OGM, però poi c'è la gente che va contro gli OGM. Lunedì. Cioè, in questo caso martedì. Però normalmente diciamolo, ne approfittiamo martedì sera, l'ultima di stagione di OGM, dove facciamo uno speciale sulle Olimpiadi con un collegamento speciale da Tokyo. Quindi avremo, insomma, al nostro ospite Corrado Nannavecchia, che è una guida turistica italiana che ovviamente vive a Tokyo. Ah no, Toshiro Mifuma? No, e devo dire che insomma lui farà tipo le 4 del mattino per stare in collegamento con noi, perché chiaramente se lo fa gratis. Lo fa pure gratis. Lo fa gratis. No, vabbè, ma continuiamo. poi scarichiamo anche il cesso. Poi ti lamenti che Pizzi scorreggia. Mi sembra la cosa migliore. Ma poi dice: no, ma mi tratti male. Non so. Comunque, ragazzi, fatemi dire. Prego, di. Ai rigori poi andrà come andrà, ma vaffanculo, gli inglesi non sono passati. Intanto non hanno vinto, e anche se vinceranno l'europeo, intanto non hanno vinto. Esatto. Questa è la cosa più importante, perché sapete che ai fini del definire chi vince e non vince la partita, il risultato finale è 1-1, quindi non potranno mai dire noi abbiamo vinto. Insomma. Quindi, infatti purtroppo i rigori servono per determinare chi vince il trofeo, non chi vince la partita. Esatto. Insomma, piccole sottigliezze che però dal punto di vista sono quei cavilli che ci fanno piacere. Esatto. Quindi anche questa volta c'è la lotteria. Avete comprato il biglietto, stupide creature? Anche due, anche tre. Sono morte le stupide creature. Non è che siamo morti anche noi. No, ci sono, ma non sono andati a comprare il biglietto all'ultimo momento. Sono corsi a comprare il biglietto. Se non abbia occhiato. Può essere. Quindi l'avete comprato. Noi, siccome nei fuori onda ci accordiamo in tempo reale su quello che avevate appena detto, stavate parlando dello zucchero, no? Sì, certo. Ma tipo mezz'ora fa, però. Ci ha detto il dottore che lo zucchero fa tanto, tanto male. E questa è sottilissima, ragazzi. Perché dà molto sapore, carie, però poi ti fa venire la carie e colesterolo, e quindi tu stai male, lo zucchero non lo usi più per colpa di chi. L'ho capita dopo, no? La barbabietola è buona per fare l'insalata? No. Ma sì. Ma no! Con le patate! C'è una cosa che è molto più buona per fare. Sì, tipo quella benzina ecologica che in Brasile fanno andare le autovetture. Tanto l'Italia la prima. Con l'alcol. Infatti fanno l'alcol. Come si chiama? Il bioetanolo. Il bioetanolo. Bioetanolo. Col bioetanolo faccio andare le autovetture. Inquino meno, sfrutto meno l'ambiente e soprattutto non si cariano i carburatori perché non ci sono più. Adesso sono tutte macchine a iniezione. Con delle piccole modifiche posso tranquillamente usare dei carburanti differenti. Allora, iniziano i calci di rigore, ragazzi. Siamo noi che è una cosa positiva. Faccio una cosa che non dovremmo fare. Che forse non potremmo neanche fare, però lo faccio uguale, sti cazzi. E mettiamo sotto, insomma, l'audio della partita, così almeno ci godiamo questi. Tanto oramai rimangono solo i rigori. Poi se vogliamo dire delle cazzate le diciamo, non è che dobbiamo stare qui. Ma prego. Ma stranamente va in ritardo di una decina di secondi. Siamo comunque in ritardo. Tanto noi avremo i vicini che ci dicono. Buono. Primo gol. No. È da mo. No. Come da mo? È che ancora manco tirato. Sono già pareggio inglese. Sì, Arturino ci dice uno. Grande, grande, iniziamo bene. Dai. Cominciamo bene. Grande Mimmo. Bene, grande Mimmo. Ha segnato Mimmo, ragazzi. Se così vi dovesse servire. Ma sono amici. Belardi che l'ha toccata piano, l'ha toccata di giustezza e ha fatto sedere. Oddio, ha tirato un rigore di merda. Devo dire che se il portiere si buttava da qua a parte la piava. Lo so, ma è sempre così. Vabbè. E adesso Donnarumma, voglio gufare. No, 1-1. Niente, non posso autogufarmi. Sì, ma. Vabbè, ma non è che devi gufare contro Donnarumma. No, per dire, volevo dire che parava il primo, ma. Purtroppo poi noi stiamo vivendo praticamente questa lotteria dei rigori in questa modalità differita. Asincrasia. Sincronismo. Però si era buttato dal lato giusto. Quantistico. Non sento nessuno. L'ha sfiorata. Però purtroppo non vale. Non vale. Andrew chiede chi cazzo è Mimmo. In realtà era Belardi. Mimmo Locasciulli. Grande cantautore Mimmo Locasciulli, amico di. Aia. Ma Mimmo Locasciulli non è un attore. Mi sa che abbiamo sbagliato. È una garanzia però. Ma no, se questo è Belotti, Mimmo chi cazzo era? Belotti è la garanzia e sbaglia, quindi vedi che. È una garanzia che sbaglia, quello voleva dire. Vabbè. Non ha sbagliato, è stato bravo il portiere. Attenzione. Quindi ha parato? Yep. Ora vediamo. Ai. Ma così è facile. Comunque ti voglio dire, Francesco, che rigore parato e rigore sbagliato da che mondo è mondo. Ma soprattutto perché Belotti rumina prima di tirare. Per calmare. Però vedi non c'è stava perché c'è. Si è lasciato ipnotizzare. Brutta storia. E vabbè, dai ragazzi, Belotti, vai. E lui stava lì, ruminava. Cioè in questo momento lui stava lì, ruminava e ci ha messo anche 4-5 secondi. L'ha tirato malissimo. Come fai a dire che bravo il portiere? L'ha tirato una merda. Beh no, dai, insomma, era angolato. Beh, insomma. Ha tirato peggio Mimmo, eh. Però Mimmo ha fatto sedere il portiere con la finta. Vabbè, ma quello è tutto culo. I rigori ragazzi, ovviamente l'Inghilterra ha realizzato, quindi siamo sotto. Tra l'altro la telecamera è andata fuori uso. Quella lì del corner. Si è vista che ha fatto. Esplosa. E vabbè, vediamo questo momento importante. È spiazzato Donnarumma, va che bene. Già sappiamo. Va bene. Insomma, è andata così. E c'è stata l'esplosione di Wembley. Vabbè, anche un vammer a pigliare. Che questi gesti stupidi che fanno i giocatori? Cioè. Tocca a Leo Bonucci. Bonucci dopo, subito dopo. Questa è una garanzia anche lui. Ma è un difensore, però di solito. Cioè, praticamente lui ha tirato. Ci anticipa 2-2, quindi insomma andiamo avanti così. Sì, un grandissimo rigore. Vabbè, però faccelo godere. Ah, chiedo scusa, non volevo. Almeno, cioè, giusto. Non lo dirò più. Anzi, sposa proprio il cellulare, se no non. No, io sto leggendo Arturino, però. Strillano fuori se succede qualcosa. Sì, già c'è questa limitazione del di fuori. Sui rigori non però a questo punto sono cioè, tutti che. Troppo cheti, è strano. Secondo me erano già tutti pronti ad andare a festeggiare. Ma no, è che comunque la tensione è importante, insomma. Sì. Adesso preghiamo tutti che Donnarumma riequilibri le cose. Vediamo un po'. No, secondo me fatto nel suo terzo alla fine comunque devo dire Arturino che... ha criptato il prossimo risultato. Bravo, bravo. Però attimo. Credo che potrebbe esserci una parata. Comunque potrei, cioè, nel senso, a me vedi tutti si abbraccicano gli inglesi. Bello, bello. No? Insomma, sempre bei momenti di sport. E qui c'è Negret. Il gatto è scappato dalla paura. Intanto è rientrato dentro di corso. C'è Negret contro Donnarumma. Muore. E non so come si chiama. Ragazzi. È Negretto. Non è che lo sto insultando. Cioè. Alla fine, vediamo. Insomma, si. Un super coglione commenta qualcuno, Shuren. È andato proprio fuori. Che tipo Baggio usa 94, fatemi capire. No, Baggio fece un capolavoro. No, vabbè, sei un idiota davvero, ragazzi. Cioè, non potete capire che ha fatto. Lo potete capire perché già lo sapete. No, però, ma a parte che è un coglione e poi ci ha messo 30 anni, ha fatto la tripla finta. Per quello che è un coglione. Cioè, si è messa lì a far coglione, ma tirate sti cazzo di rigori. Non può manco dirà così un rigore, secondo me. No, adesso me. Sì, adesso sì. Adesso sì. Sì. Infatti pure io dico, boh, non c'ha proprio senso. Bravo. Secondo me, allora, se mai dovesse finire come tutti vorremmo... Questo secondo me non può più uscire di casa. Esatto. Ma poi io però dico una cosa, ma tirate sti cazzo di cose, mettete a fare i stronzetti, i balletti, i coglioncelli, cioè io boh... Non so ballette, sono tante cose che ti servono per disorientare. Non sento esultare per il prossimo rigore. Quindi potrebbe essere un brutto segno, diciamo. È gol! Grazie, Michele, grazie. È che qua ognuno io sa che sono quello che sta più indietro di tutti, comunque questa è la cosa bella. No, di... io ce l'ho come te. Gol, go, cioè, Madonna che culo, ragazzi, il rigore più brutto di tutta la serie, però è entrata. Tirata al centro proprio. Attenzione, c'è gente che urla. Stai calma, stai calma. Ferma, ferma. Abbiamo già vinto perché... gli europei addirittura. No, è che dal suono fuori potrebbe magari Donnarumma ha fatto il suo. Sì, no, però c'è ancora un altro turno, Però c'è, esatto, esatto. Okay. Ancora succede. No, raga, abbiamo vinto. Poi succede ancora raga, tutto. Se avessimo vinto ci sarebbe l'apoteosi qua di fuori. C'è. Però magari siamo un pezzettino allora, avanti. C'è Negret 2 che si avvicina al che alla Dai! Niente. Dai! Non mi godrò mai questi calci di rigore. Vabbè, è giusto, posso... Ma che te vai godere? Tutta ansia. Ah, ridai, ha fatto la finta pure lui e Donnarumma glielo para! Vabbè raga, comunque sono un po' degli idioti. Sti Negret dell'inglesi sono un po' dei Negret. No, sai che non. Ma non era. Non condivido questa cosa. Nel frattempo leggo un Rizzard selvatico che scrive: chi ha fatto palo? Chi ha fatto palo, esatto. Quello di prima. No, questo no, manco quello di prima. No, cioè, vedo l'ansia negli occhi di Mancini. Un attimo. Ah, l'ansia. Siamo tutti, L'ansia c'è sta, insomma. Chi è questo? Ma ragazzi, attenzione. Ho sbagliato. Ancora non ci siamo. Se sì, no. Troppo silenzio, non mi piace. Va bene, raga. Che cioè, il portiere dell'Inghilterra sta a fare dei gesti quasi brutali. Scaramonti, sì. Quasi brutali, devo dire la verità, insomma. Grazie sempre, grazie. E vabbè, tanto comunque va bene, tanto se l'hai capita, insomma. Diciamo che questa è la lotteria vabbè, dei rigori. Mazza però, cioè, boh, comunque i rigori più brutti esatto. di tutto l'Europa. Dai. Mi sa che l'abbiamo fatto. Mi sa che l'ha parato pure Donnarumma, occhio e allora, croce. Io non so cosa sia successo, che sicuramente Donnarumma ha parato il successivo. Ho sbagliato, attenzione! Campioni d'Europa! Allora ditemi se siamo contro quelli di una certa modalità di colore. Okay. In chat arriva anche Gabby Lame nel frattempo. Allora, intanto non siamo campioni, più online. Campioni, dice Arturino Campioni. Un attimo ragazzi, non mi fate vivere sto momento. Un attimo perché l'europeo ci è mancata tanto. Parata! Cazzo sì! No, aspetta, non è ancora l'unanimità, qui ancora deve tirare, Allora, ragazzi, è successo. E te lo dico al culo! Oh, Boni, oh, ragazzi, Boni. State, state parata e vai. Ok, allora, comunque la colpa è di Marco che mi stacca l'USB. Oramai è abbastanza chiaro. Che cazzo? Lo so, però evidentemente il cavetto deve star messo male. Ma cioè, dove? O questo qui o quello là sotto. Comunque eravamo offline, io spero che ora siamo online. E vabbè, ragazzi. Ragazzi, abbiamo vinto! Abbiamo perché vinto... da come si sono tuffati? Evidentemente sì, sono finita la serie! Sì, è fine, sì, siamo campioni! Un europeo l'insegna del bacio di culo. Povero cane, ragazzi. No, lo devo scrivere. It's coming home. Allora, povero cane, ragazzi. A me dispiace per il cane. Football perché... is coming home. It's coming home. It's coming. Vabbè, mortacci allora vostra. Ragazzi, io sono contento da una parte perché comunque è successo quello che tutti ci aspettavamo che succedesse, una bella vittoria. Perché abbiamo vinto e non l'abbiamo capito a un tratto. Sì, non abbiamo capito che è successo. Abbiamo capito che abbiamo vinto, dovrebbe essere così, perché poi non abbiamo conferme, mo chiediamo un po' in giro, non siamo più sicuri neanche di essere online, poi ve l'ascolterete in podcast, ragazzi, perché anche chi se ne frega. Devo dire, è una vittoria che mancava da tantissimo tempo, una nazionale che è ricresciuta dalle ceneri della vecchia nazionale. Mi fa veramente piacere il fatto che comunque, sai, nei momenti di difficoltà esce fuori sempre qualcosa, e questo siamo online. È una cosa che ci fa veramente piacere. Allora, scusa, posso solo aggiungere un minuto di cordoglio per un mio amico nonché socio che stanotte non chiudere occhio perché abita di fronte alle case popolari di Monterotondo e non gli faranno chiudere occhio. Vabbè ragazzi, insomma. Scusate, mi chiamano dalla Spagna italiani per festeggiare. Benissimo, allora ragazzi, io ringrazio tutti, è stata una bellissima esperienza. Ci abbiamo avuto qualche problema tecnico nelle ultime due puntate. Intanto stanno incidendo Italy sulla coppa, cazzo. Bene, va bene. E volevo dire, intanto sento bottiglie che volano, cose un po' strane di fuori. Dicevo, è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti. È stato un lavoro impegnativo, devo dire, soprattutto da parte delle stupide creature, che non solo ci hanno fornito quasi sempre degli assets, sempre, insomma, diciamo, pronti e puntuali, ma anche il fatto di improvvisare delle canzoni lì per lì. Veramente bravi e grazie. Voglio ringraziare per questo. Grazie a voi. Voglio ringraziare per questo, ovviamente, Mauro Grandi, Marco Bianchi, Simone Vailati, Pier Panseri, che non ha mai partecipato direttamente, però fa parte delle stupide creature, Ilaria Taroni e ovviamente Consuelo Meroni. Grazie veramente per l'impegno che ci avete messo e questi bei momenti di stare insieme che ci avete regalato. Ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato esternamente, quindi Carlo Sant'Agostino, Alex Raccuglia. Bene, intanto Alex Racuglia e tutti i ragazzi di Runtime Radio che comunque si sono alternati e che hanno dato una mano, insomma, a questa organizzazione. Ringrazio Michela De Paola. Scusate a tutti, grazie a tutti. Ringrazio Walter Sbano che si è inserito. Mi sono imbucato, grazie. E piano piano, insomma, ha fatto parte della trasmissione. Ringrazio ovviamente Marco Bianchi. Marco Gualdi. Scusa, Marco, oramai sai l'ictus. Non capisci un cazzo, insomma, questo. Vabbè. Comunque, ciao, grazie a tutti. Facciamo fare un giro di saluti anche ai ragazzi. Vai, ciao a tutti ragazzi, grazie mille per questa bellissima trasmissione. Grazie. Ragazzi, grazie. Scusate, grazie, fatemi ricordare con pazienza. Viva. Bravi. Fatemi ricordare, importantissimo, che nessun animale è stato maltrattato nella realizzazione di questa trasmissione. Veramente, sì. Ma se ne è fottuto. In effetti è un disclaimer che, insomma, avremmo dovuto. Vi ricordo che da domani ritorna tutto il palinsesto di Runtime Radio. Per seguirci, runtimeradio.it, oppure andate su Spreaker e cercate Runtime Radio e potete accedere a tutti quanti i nostri podcast che oramai da 10 anni vi fanno compagnia e che hanno superato i 2 milioni di download, anche se effettivamente oggi ufficialmente possiamo contarne soltanto uno. Detto questo, vi ricordo che martedì ci sarà il finale di stagione di OGM con questo appuntamento con il Giappone, e vi ricordo anche che se volete su runtimeradio.it c'è il pulsantino anche io per poter sostenere il progetto Runtime, fare un contributo, insomma, volontario, se volete Patreon o PayPal, come assolutamente vi pare. Grazie a tutti, Italia campione d'Europa, ci vediamo alla prossima occasione con una trasmissione come questa e magari, insomma, ci vediamo a Dubai. Esatto, ci vediamo a Dubai, magari festeggiando qualcos'altro. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Bene. Questo qui è un fuori onda che sentiranno soltanto quelli in podcast. Ragazzi, siete contenti? Sì. Dai, su, alla fine. Ragazzi, eravamo sotto di un gol a 2 minuti dall'inizio. ci trollavano con It's Coming Home da giorni, ma meglio di così che volete. Meglio di così non poteva andare. Fantastici, fantastici, grandi, grandi, grandi. C'è la fortuna che, boh, forse sarà che è una domenica e quindi ormai lunedì non c'è bordello come c'era qua a semifinale. Aspetta un po'. Dai, un attimo, si stanno organizzando tutti. La gente sta sci adesso. Sì, secondo me è ancora la gente un po' traumatizzata perché ragazzi, io bisogna vogliono vedere la premiazione. Ma poi ragazzi, noi tradizionalmente, cioè per una vita, tradizionalmente i calci di rigore erano zero. Mo' è un po' di anni che ogni tanto qualcosa c'è sbucafone, insomma. Comunque ragazzi, bellissimo anche... il tizio con la foto di Schwarzenegger vestito da Terminator scozzese, sì. Will be back. Fantastico. Vabbè, godremo di tanti meme nei prossimi dove giorni. La voglio subito adesso. Vabbè ragazzi, bacioni a tutti, grazie. Ciao. Poi ci sentiamo noi domani con calma per fare un riassunto di questa esperienza. Il famoso debriefing. Ciao ragazzi. Ciao.